La zanzara delle feste. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, un saluto ad Alessio Maurizi, Stefano Catone, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia anche questa sera, insieme alla Zanzara delle Feste, l'orario delle feste 18, 20 e 30, il numero verde per intervenire in diretta non cambia, 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri sms, siamo attivi anche su Facebook naturalmente. Iniziamo subito le parole del dizionario di Mario Monti, non si può che non parlare di agenda. Tu sei straordinaria, sia esteticamente che come amica. Cioè io ne ho provate tante, ma nessuna mi dà le brividi che mi dai tu. Voglio scrivere la mia storia in coppa a te, smemoranda. Smemoranda, smemoranda, è l'agenda più bella che c'è. Ci metti dentro l'appuntamento, ci scrivi ciò che ti farà a te. Proprio vero che Monti è come le banche. Ci tartassano tutto l'anno e poi a Natale ci regalano un'inutile agenda. Ma poi quando l'ho vista dentro a quella cartoleria, così bella, unica, irresistibile, ma l'ha già fottuta, a smemoranda. Noi proseguiremo il cammino intrapreso dalle primarie. Costruiremo con l'agenda Monti, diciamo così, un rapporto di discontinuità. Noi abbiamo deciso di portare al governo l'agenda Bersani. Non significa che dopo il tempo delle formiche arriva il tempo delle cicale. Ma è evidente che voglia mantenere l'IMU, aumentare l'IVA e mettere la patrimoniale. Credo che per le famiglie e le imprese, se dovesse realizzarsi questa agenda, si preannunciano tempi preoccupanti. Non si può non parlare dell'agenda, l'agenda Monti forse sarà questo termine anche nella lista, nel nome della lista, sicuramente è una parola cara a Monti. Devo dire che quella della Sant'Anchè una volta tanto non è male, Monti come le banche che a Natale regalano l'agenda, questa non era male da parte della Sant'Anchè. E va bene, insomma siamo tutti in attesa di sapere quali saranno le scelte. Oggi ci dovrebbe essere stato un incontro, un vertice tra quelli che sostengono Monti, una lista al Senato, sicuramente per superare la soglia di sbarramento, forse una lista anche alla Camera. Avete sentito i telegiornali, i giornali che per ora dicono questo a livello di indiscrezioni. 800 24 00 24. Io vi vorrei anche chiedere questo, ma Monti alla fine di tutto è di destra o di sinistra? Cioè, oppure come dice lui, la divisione adesso sta tra modernisti e conservatori, una divisione che fa comodo a lui, che si pone come innovatore. Però insomma, alla fine di questa esperienza, Monti è di destra o di sinistra secondo voi? A guardare dagli strepiti e dalle urla delle segreterie di partito è più di destra che di sinistra, perché a brontolare è più il centrodestra del centrosinistra, perché c'è una competizione evidente in termini di voti, e quindi questa potrebbe essere già una risposta. 800 24 00 24. Altra parola del dizionario tutto montiano è il verbo salire. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa. Preferirei. Ma guardi, io non temo Monti, perché credo che da Deus ex machina, quale era stato proposto, se scende in campo diventa un protagonista qualunque. Lui dice sale in politica. Lui dice sale perché ha ragione, aveva un rango inferiore a quello di Presidente del Consiglio. Io ho detto sceso in campo perché avevo un rango superiore, e quindi è giusto, mi sembra che questo sia il linguaggio. Io vorrei sapere se questa cosa l'aveva in mente Berlusconi, giuro che pagherei per saperlo, se gli è venuta lì per lì. credo che gli sia venuta in mente lì per lì, che è stato interrotto mentre parlava su questa cosa di salire e scendere, allora ha risposto di getto, anche perché non ha senso quello che ha detto. Non è che Monti era di rango sociale inferiore, è stato commissario europeo, è professore universitario, a meno che Berlusconi per rango sociale non intenda la dichiarazione dei redditi, siccome lui è l'uomo più ricco d'Italia, di rango economico più alto di lui non c'è nessuno, quindi sicuramente lui scendeva e l'altro saliva, altrimenti questa cosa non ha senso, gli è venuta di getto. E va, insomma, le parole del dizionario Monti, salire in politica, anche questo si può sottolineare di questi tempi. Ancora Berlusconi, però sempre sulla RAI, che lamenta, come sempre, un tormentone, gli spazi che lui non ha avuto e che invece altri hanno avuto in televisione. Sì, intanto per la ripresa sono, da quando ho cominciato a frequentare le televisioni, sono in grandissimo credito ancora nei confronti della sinistra, perché io ho fatto pochissime ore, tutte al mattino, pomeriggio, tarda serata, non ho ancora avuto l'opportunità di partecipare a un prime time, a una prima serata dove ci sono molti, ma molti più ascoltatori. Va bene, e per la cronaca c'è la dichiarazione del direttore generale della RAI, Gubitosi, che dice adesso ha richiamato le reti e le testate della RAI a garantire il pluralismo dopo questa ondata di presenze di Berlusconi. Berlusconi, che ha fatto sapere Gubitosi in una lettera, ha approcciato direttamente reti e testate, cioè ha chiamato lui per essere ospitato. Cioè non è che ha detto mi chiamano, vado, oppure c'è la campagna. No, ha chiamato lui per andare, insomma, perché doveva recuperare questo gap che secondo lui si era accumulato. Sale in politica anche Piero Grasso per il Partito Democratico, il procuratore nazionale antimafia, e poi dice che i magistrati sono tutti di sinistra, dice Berlusconi. Ti credo, Ingroia va con la sinistra, Grasso va con la sinistra, e che alla fine c'aveva ragione Berlusconi, i magistrati sono tutti di sinistra. Sentiamo Letta. Piero Grasso è una delle candidature che servono a dare una forte identità su questo tema, ce ne saranno altre. Credo che sia una delle questioni per noi oggi più importante, quella del forte messaggio di lotta senza se e senza ma, mi verrebbe da dire, contro l'illegalità, la criminalità organizzata e tutte le mafie. E va bene, prendiamo atto anche di questo. Grasso si candiderà col PD. Ultima dichiarazione del momento, diciamo, di oggi, quella di Di Pietro, un po' incomprensibile, sul Monti come Berlusconi. Consumatori da una parte, impresa dall'altra, stanno sull'astrico. E Monti dice che tutto va bene, madama la Marchesa. Io credo che tra Monti e Berlusconi ormai mi sembra una fotocopia. E poi ci sono anche gli sviluppi del caso di cui abbiamo parlato anche ieri sera, di San Terenzo, il parroco Don Piero che fa marcia indietro, anzi nessuna marcia indietro, non c'era nessuna lettera in cui lui aveva detto di dimettersi. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti sanno. Ora sentite a che livelli di follia può arrivare un essere umano. Sentite questa povera giornalista che chiama Don Piero per chiedergli lumi su questo suo presunto passo indietro. Sentite. Buongiorno, parlo con Don Pietro Corsi. Dipende con chi parlo io. Sono una giornalista, Elisa Esposito, dell'agenzia radiofonica. Per lei si sono rata di carogne, gente che dice soltanto bugie, che prendete le pinciate le persone. Non ho capito, mi scusi. Siete dei disgraziati, persone che pinciate le persone. Siete dei malvagi, giullari che per avere un pasto mettete crocifiggete le persone. Lo dice sul serio, Don Guardi, Corsi. Le auguro che le venga un colpo. Le auguro che faccia un incidente. Io immagino che lei stia usando dell'ironia. Non capisco perché si rivolge a me, non mi conosce nemmeno in questo perché, modo. Perché appunto, perché voi senza conoscermi avete scritto cose che io non ho detto. Quello è bello. Voi parlate al telefono, a me avete messo in piazza. Ora io capisco che prendersela con i giornalisti, anche per uno messo all'angolo come Don Piero di San Terenzo, frazione di Erici, sia comodo, vada di moda, la casta dei giornalisti, facciamo sicuramente tanti errori, tutti quelli che volete, però stavolta credetemi, vi prego, ve lo giuro, i giornalisti non c'entrano nulla, perché è chiaro, no? Lui ha scritto una lettera che era fissa in bacheca, i giornali hanno riportato quello che c'era scritto, quindi nessun travisamento, non è proprio possibile. Ecco, io poi vi pongo pongo questo all'attenzione. Perché in Grecia il patriarca della Chiesa ortodossa offre le terre della Chiesa per fare lavorare ai contadini in questo periodo di crisi alle persone, e invece noi abbiamo questo qua che non vuole dimettersi, che è la curia che non fa nulla per togliere di mezzo un personaggio del genere, che è una follia assoluta. Ecco, ma non si potrebbe fare a cambio? Gli diamo il Papa e ci pigliamo il patriarca. Signor giudice, signori della corte, io avevo smesso di rubare, ma poi quando l'ho vista dentro a quella cartoleria, così bella, unica, irresistibile, me l'ha già fottuta a smemoranda. Smemoranda, smemoranda, e la gente... Ci andate a recuperare questo pezzettino di Checco Zalone su una pubblicità della Smemoranda di qualche anno fa. La parola del dizionario Monti, agenda. Sono tutti in attesa di capire come verrà costituita questa discesa, questa salita in politica di Monti, questa agenda che formerà una lista al Senato più lista alla Camera. Cerchiamo di capirci qualcosa e salutiamo il senatore Pietro Ichino. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E anche auguri, perché insomma siamo ancora, e auguri, siamo ancora per il nuovo anno. A tempo. Certo. Ichino, ex a questo punto, come dire, del Partito Democratico. Lei è un indipendente, è sempre stato, però è stato eletto nel PD. Adesso però ha annunciato che aderirà al progetto di Mario Monti, per cui niente candidatura col PD, e saluti a Bersani. Sì, ho compiuto questa scelta perché credo che oggi il discrimine fondamentale della politica italiana, la questione cruciale, sia quella della strategia comune con i nostri partner europei per uscire insieme dalla crisi, e per l'Italia in particolare la questione del cogliere questa occasione della crisi per innescare un processo di allineamento del paese ai migliori standard europei. Ecco, questa oggi è la questione cruciale per il nostro paese, e su questa questione vedo nel Partito Democratico due anime, con due linee, due idee in proposito diverse. Cioè, a proposito dell'agenda Monti. Da una parte sì, abbiamo Bersani che gira le capitali d'Europa per assicurare che andrà avanti come leader della nuova coalizione di centro-sinistra sulla linea di Monti, sulla strategia delineata da Monti per l'Italia insieme ai nostri partner europei, ma mentre lui dice queste cose a Roma, dice queste sì, cose in Europa, sì, a Roma Fassina, il responsabile nazionale dell'economia del partito e Vendola, alleato principale del Partito Democratico, dicono cose molto diverse. Dicono per esempio che quanto ha fatto Monti in questo anno è stato rovinoso per il paese, ed è stato, e questo è ancora più significativo, è stato l'adempimento di impegni assunti dal governo precedente irresponsabilmente e che devono essere cambiati. Quindi primo passo da compiere appena saremo al governo è rinegoziare quegli impegni. È evidente che c'è una differenza profonda fra queste due posizioni, non sono fra loro conciliabili. Ora, cioè lei pensa che anche dopo le elezioni, qualora Bersani, come ha accreditato, del suo partito dovesse avere comunque una maggioranza relativa, avrà poi difficoltà a portare avanti quello che lei, mi sembra di capire, riconosca a lui personalmente come un seguire l'agenda Monti, diciamo così, al 60%, invece il suo partito lo frenerà. Dice di voler fare, ma occorrerebbe che lui in qualche modo correggesse in modo chiaro, in modo univoco, sì, le cose di segno opposto che vengono dette da parte così importante del suo partito. Il problema è che queste cose di segno opposto rappresentano un'intera anima del Partito Democratico, e quindi capisco la difficoltà. Ora, in tempi normali, in un sistema bipolare, sarebbe logico che si dicesse tu tu appartieni al Partito Democratico, sei in minoranza oggi in questo partito, ma conduci la tua battaglia per tenerlo ancorato all'interno, sì, sul versante giusto, quello che ritieni essere il versante giusto rispetto allo spartiacque fondamentale. Certo. E quando i fatti ti daranno ragione, ne trarrai beneficio diventando tu maggioranza nel tuo partito. Questo è un ragionamento giustissimo, è quello che ho praticato per 40 anni di mio lavoro politico all'interno della sinistra italiana. Ma oggi però lei dice c'è un'offerta diversa. Oggi non, non c'è il tempo per una, voglio dire che se l'Italia sbaglia strada nei prossimi mesi, il rischio è che poi non ci sia più E poi d'altra parte, Ichino, voglio dire, c'è un'offerta politica chiara che è quella di Monti a questo punto, per chi come lei crede in quell'agenda, in quella direzione, adesso c'è una possibilità, c'è un'offerta politica, quindi è evidente che lei ed altri si rivolgano a quella, per chi ci crede. È una nuova formazione politica, sì, che intende rispondere anche alla domanda espressa da quel 45% di italiani che dichiarano oggi, hanno dichiarato fino a ieri, sì, di non saper per che cosa votare. Ah, quindi diciamo anche in gran parte questi sono elettori che per un verso rifiutano di votare per il populismo anti-europeo. Senta, Chino, voglio fare anche questa domanda, però mi sembra, però implicitamente lei già lo sostiene, insomma, al di là degli schieramenti destra-sinistra, lei viene da uno schieramento di sinistra, però adesso approda a questo raggruppamento che fa capo a Monti. Monti ama dire la distinzione adesso non è tra destra e sinistra, ma tra innovatori, modernisti, diciamo così, e conservatori, cioè c'è una parte che non vuol cambiare. Lei oggi aderisce a questo? Oggi questa bipolarità si esprime in differenza tra contrapposizione tra chi vede nella strategia europea per l'uscita dalla crisi insieme ai nostri partner, con tutti gli impegni che abbiamo preso con loro per allineare l'Italia agli standard europei in tempi più brevi possibili, e vede l'obiettivo, la stella polare a cui ancorare tutte le politiche nazionali, sì, e chi invece addirittura vede in queste politiche il male del paese, la fonte della crisi, sì, per esempio, e quindi Grillo le osteggia. Ora, oggi questa è la scelta che l'Italia deve fare. È possibile che si riporti tutto a questo, Chino? Cioè, la frontiera con il rapporto con l'Europa. Mettiamo che, insomma, nel giro di un anno, ancora la legislatura sarà più lunga, durerà 5 anni, si vadano sciogliendo questi nodi che in qualche modo già questo anno di governo Monti ha risolto. Poi dopo il resto della legislatura come sarà impostata? Cioè, per lei destra e sinistra non sono più importanti? Monti, per esempio, secondo lei è di destra o di sinistra? Ma, guardi, se dobbiamo considerare di sinistra chi sta dalla parte degli esclusi, chi sta dalla parte di chi è senza lavoro, di chi, dei giovani che sono condannati a una condizione di inferiorità permanente, strutturale nel nostro mercato del lavoro, di chi dà di sinistra, chi dà delle soluzioni efficaci e incisive per riportare il livello di occupazione femminile in Italia ai livelli europei. Noi abbiamo più di metà delle donne italiane fuori dal mercato del lavoro regolare, e se consideriamo più di sinistra chi si occupa di aumentare drasticamente il tasso di occupazione nella fascia fra i 55 e i 65 anni, non ritornando indietro rispetto alla riforma pensionistica e che viene fatta poi pagare alle nuove generazioni negli anni futuri, ma creando le condizioni, gli incentivi per aprire il mercato del lavoro a questa fascia che oggi ne è in larga parte due terzi esclusa, e anche introducendo un sostegno del reddito, il 70% di indennità di disoccupazione per chi ha più di 55 anni e è rimasto senza lavoro e non ha, e si vede allontanare l'età della pensione. Ecco, queste sono tutte soluzioni concrete presenti nell'agenda Monti su problemi cruciali per chi sta male oggi nel nostro paese. Questo è chiaro. E questi sono i problemi che contano. È più di sinistra l'agenda Monti che non un programma di sostanziale conservazione delle strutture esistenti, perché ecco, se poi andiamo a vedere più da vicino ci accorgiamo che negli altri programmi non si tocca c'è questo, più immobilismo, però a proposito di questo criterio, no, dell'immobilismo della capacità invece di cambiare, di fare queste cose che lei dice sono anche di sinistra, uno come Vendola, che alcuni definiscono come un conservatore, però che ha guidato la Puglia in una fase in cui magari non tutto per merito suo, forse anche non per merito suo, però è cresciuta molto, è più conservatore di alcune esponenti del centro che hanno sostenuto per esempio Cuffaro in Sicilia, secondo lei? No, guardi, Cuffaro con l'agenda Monti non ha niente a che vedere. Il partito, l'UDC però è lo stesso. E Monti ha detto molto chiaramente che non accetterà in alcun modo che questa sigla, questa bandiera dell'agenda Monti possa essere utilizzata per riciclare pezzi della vecchia politica. Infatti sui giornali circolano liste di impresentabili, ma ci sono quindi degli esponenti anche politici impegnati anche in Parlamento adesso di primo piano a cui Monti non vorrà far entrare nella sua lista per questa questione qua? Monti lo ha detto molto chiaramente domenica scorsa, ha detto le liste per l'agenda Monti, cioè lui non darà il consenso a che una lista sia intitolata all'agenda Monti se questa lista verrà utilizzata per riciclare pezzi della vecchia politica. Questo significa che la nuova formazione politica che si sta creando, che sta nascendo, è nuova rispetto a tutto ciò che abbiamo visto nel recente passato. Certo che si avvarrà delle competenze e dell'esperienza di alcune persone che hanno già fatto il loro servizio politico in Parlamento, io sono uno di questi, questo non significa sia una sommatoria, una giusta posizione di vecchie sigle, vecchie formazioni, non è così. Nasce una formazione nuova con un suo statuto di laicità, che non significa certo indifferenza ai valori religiosi e tantomeno laicità, perché invece sembra quasi che ci sia un po' anche una ricostruzione di un polo cattolico, perché di esponenti cattolici di primo piano ce ne sono, tant'è vero che si legge sui giornali, sulle indiscrezioni, che Fini sarebbe invece un po' mal visto proprio per la sua laicità. Non è così. Prematuro. I cattolici possono dare, e è bene che diano un contributo determinante in un momento come questo, drammatico per il nostro paese, ma in questa alleanza, in questa unione di persone che hanno chiara la direzione in cui il paese deve muovere, il principio di laicità è il metodo necessario perché appunto tutte le persone di buona volontà possano mettersi insieme e scegliere quello che è necessario fare per la salvezza del paese, senza che nessuno abbia la pretesa di avere in tasca la verità rivelata sulle scelte di politica da compiere. Ma questo si legge che il Vaticano ha dato un po' il suo appoggio, il Magistero cattolico, è il principio di autonomia della politica rispetto alla religione. Vabbè, questo diciamo è il concetto di laicità, però la presenza dei cattolici c'è, oggi c'è, certo, viene registrato anche l'appoggio del Vaticano, ma insomma questo non vuol dire. Lei parte sua ha risposto. Ichino, se ha ancora qualche minuto e ci fa il piacere, noi saremo contenti, faremo una pausa. Poi però le volevo chiedere se ci dà anche qualche, insomma non dico indiscrezione, qualche notizia, visto che si sta lavorando in queste ore su una lista, due liste al Senato, insomma cosa ci aspetta con questa agenda Monti. Lei tra l'altro ha detto che forse... Mi posso solo dirvi che al Senato ci sarà una lista unica nei giorni prossimi e verrà discusso e deciso se ci sarà una lista unica per l'agenda Monti anche alla Camera o se invece per la Camera ci saranno più liste. Una coalizione di liste. Però se ha ancora qualche istante di tempo da spendere con noi, facciamo una pausa che dobbiamo fare per forza. Io però non ho questo istante, le chiedo scusa. Non ha questo istante, benissimo. Allora, detto che potevo stare con voi fino alle 6:30 e purtroppo è proprio così. Allora chiudiamo con un'ultima domanda, se ha ancora un secondo. Lei sarà, come abbiamo letto, capolista in Lombardia di questa lista, per esempio, al Senato? Questa è la prospettiva, naturalmente questo dovrà essere ratificato dai coordinatori e soprattutto da Monti, ma questo è quello che mi è stato proposto e quello a cui sto lavorando. Si parla di una Lombardia decisiva per la questione del premio di maggioranza proprio al Senato, quindi diciamo sulla Lombardia si punterebbe molto. Sarà difatti una battaglia molto importante e credo che proprio in Lombardia si decideranno molte cose. Del resto la Lombardia è sempre stata una regione decisiva nella politica italiana. Le posso chiedere personalmente, lei tra Ambrosoli e Albertini chi sosterrebbe in Lombardia? Guardi, io credo se devo parlare a nome se dovessi, perché ancora questo non è deciso definitivamente, ma dovessi parlare a nome di questa lista, noi appoggeremo i candidati alla regione Lombardia il cui programma sia coerente con l'agenda Monti. Può essere che ce ne sia uno solo, può essere che ce ne siano due, e se saranno due la lista Monti non appoggerà in particolare uno o l'altro, ma considererà entrambi diciamo una buona scelta, perlomeno una scelta coerente con chi vota la lista Monti. Mi sembra difficile che questo possa essere detto di un candidato come Maroni, persona rispettabilissima ma che esprime la posizione della Lega, che in questo momento ha una posizione, e immagino la manterrà nella competizione elettorale, drasticamente, diametralmente opposta rispetto alla strategia europea dell'Italia, e quindi evidentemente rispetto a quella posizione, come ad altre posizioni analoghe che vengono espresse in varia misura da Grillo, da Berlusconi, noi non possiamo che avvertire il Paese: guardate che se si fa quella scelta ci si colloca fuori della strategia che abbiamo inaugurato quest'anno e che ha cominciato a portare risultati straordinari, perché Draghi non avrebbe mai potuto fare la manovra che ha fatto con la Banca Centrale Europea a settembre se Monti non gli avesse fatto sponda in Italia con quello che ha fatto, e i nostri amici tedeschi non avrebbero mai dato vita al fondo salva stati senza quello che ha fatto Monti in Italia. Quindi noi vediamo già e vediamo molto bene i risultati di questa strategia europea. Se andiamo avanti con determinazione in questa direzione, portiamo lo spread a 200, abbiamo altri 20 miliardi da investire nella nostra economia per gli sgravi sugli fiscali, tutte le cose di cui si parla, lavoro, su questo impresa. Se andiamo in altra direzione si cambia strada, ma evidentemente tagliamo l'erba sotto i piedi a Draghi e ai nostri amici tedeschi. Comunque, insomma, tornando alla Lombardia, mi sembra di capire, Ambrosoli o Albertini, lei personalmente li avvicina, insomma, li mette un po' sullo stesso piano. Poi che possono, vedremo i loro programmi. Sì. Posso immaginare che entrambi possano avere, conoscendoli personalmente, un programma di governo della regione pienamente compatibile con la strategia europea dell'Italia, e in questo caso non possiamo che salutare con favore la loro vittoria alle elezioni. Poi vedremo, anche perché questi programmi non li abbiamo ancora visti da vicino, ma conoscendo le persone questo posso prevedere. Grazie Pietro Ichino, auguri ancora e a presto, buona grazie serata. Grazie a lei e auguri a tutti gli ascoltatori. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Non è vero, perché di cosa chiedo chiedere scusa? Per chiedere scusa ci vuole un'offesa, se voi mi portate l'offesa io posso anche chiedere scusa. Io non mi sembra di aver offeso nessuno, almeno non ne ho la consapevolezza, almeno. Dimostrate i miei doveri, io se ritengo di aver offeso sono pronto a chiedere scusa, ma io non so di cosa chiedere scusa in questo momento. Si prenderà 2 o 3 giorni di riposo per lo stress, ha fatto sapere la Curia. Lo stress ce l'ha causata a noi, Don Piero, da San Terenzo, con queste assurde affermazioni che ha scritto e appeso sulla bacheca della sua parrocchia. L'avete sentito al microfono di Andrea Ferro, il nostro Andrea Ferro, e poi, subito dopo, dice la cosa più interessante di tutte. Dice, ma io ho ricevuto un sacco di telefonate di uomini disperati perché le donne in effetti si comportano come dico io. Tenga presente che purtroppo ho ricevuto tante di quelle telefonate, non solo di solidarietà, ma anche di uomini disperati che si ritrovano totalmente in quella situazione lì. Però quello è fatto. Comunque, chissà se le riporterete queste cose. Ora, io non lo so se ci sono davvero tutte queste telefonate di uomini disperati, io però vorrei sentire qualcuno di questi uomini che danno ragione almeno sull'aspetto delle donne che in carriera che non lavano i piatti, come dice Don Piero da San Terenzo, che mi sembra una follia assoluta all'alba del 2013 quasi. Abbiamo presidenti donne in giro per il mondo, parliamo del fatto che le donne non sono abbastanza occupate nell'economia e poi siamo ancora a queste robe qua, insomma è allucinante. Soprattutto se Don Piero voleva parlare degli equilibri nel rapporto di coppia, forse poteva omettere il particolare del femminicidio, cioè non parlare dell'opzione violenza o dell'omicidio della donna se non lava i piatti, perché sennò qua è veramente una follia, pare di essere in un incubo. Però insomma, 800 24 00 24, io voglio sentire uno di questi uomini che ha chiamato a Don Piero, chiamate anche noi e sfogatevi su questo, perché noi gli sfoghi siamo pronti a riceverli tutti. Adesso principiamo a sentire i vostri interventi, per l'appunto al numero verde, con Ivano che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua, Ivano, prego. Niente, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Anche perché fortunatamente non c'è Parenzo. È in vacanza. Anche lui. Comunque io volevo semplicemente intervenire per Monti. Sì. La sento un ritorno. No, noi sentiamo benissimo, la sentiamo forte e chiaro. Perfetto. Allora, secondo me il problema grande di Monti è che i partiti PD, PDL, UDC lo hanno sottovalutato all'inizio. Non è arrivato per caso, lui ha fatto nei primi 5 mesi la cura da cavallo per noi altri. Poi per 5 mesi ha temporeggiato per arrivare alla fine del suo mandato e ora ci presenta una Giunta Monti in cui promette come tutti gli altri politici. Solo essendo un pochino più furbo, secondo me. Perché più furbo è Monti? Perché ha pianificato perché questa cosa da mesi. 5 mesi, sì. Qualcosa che né il PD né il PDL avrebbero mai potuto fare. Se quelle cioè cosa? Cure che ci ha propinato lui, sì, ce l'avesse propinato uno qualunque degli altri, avrebbe perso completamente il suo elettorato. Però scusi, è contraddittorio quello che lei dice, perché Monti, dopo avere proposto queste ricette molto dure, adesso però si candida, quindi va alla ricerca dei voti, cioè lui potrebbe anche dire chi se ne frega. Con il ricavato di quelle cure. Ma con ricavato quale? Il ricavato in termini elettorali? Scusi Ivano. Di crescita, di tutto il resto. Ivano, scusi un attimo, l'ha detto lei, chiaramente la cura da cavallo che Monti ci ha imposto a tutti e che secondo, insomma, tutti i partiti, almeno il PDL, la Lega e anche il PD, a questo punto la sinistra non ne parliamo, adesso bisogna cambiare rotta. Lui invece dice no, bisogna andare avanti. Questo è un elemento che va contro quello che dice lei. Cioè, lui adesso va a cercare i voti. Però il fatto è che lui si è creato una visibilità per un anno, si è creato un... Ma una visibilità positiva o negativa? Perché tutti l'hanno criticato. Ma tutto sommato positiva. Io non, perché io positiva? Non parlo male di Monti. Mm. Io dico che lo hanno sottovalutato. Però scusi, se la visibilità di Monti è stata positiva, vuol dire che Monti ha fatto delle cose positive, almeno secondo lei. Quindi adesso no, che male c'è se va? Solo lui poteva fare. Perché solo lui poteva fare? Ma lei prova a immaginare Berlusconi che faceva quello che ha fatto Monti o Bersani. Non gliel'avrebbero, non, nessuno l'avrebbe mai potuto fare. E invece a Monti sì, perché? Perché c'era l'obbligatorio da PD, PDL e UDC che diceva A andava bene A, diceva Z andava bene Z. Vabbè, ma perché se è stata una libera scelta dei partiti che hanno deciso di sostenere l'agenda Monti, per l'appunto, perché hanno deciso di farlo, perché eravamo alle strette, c'era lo spread, i conti pubblici fuori controllo, bla bla bla, tutte cose che sappiamo tutti benissimo. Non è che Monti aveva un'esenzione, Monti aveva, è stato chiamato a risolvere un'urgenza, questo lo ha ammesso lo stesso Berlusconi, sì, che poi l'altro giorno ha cambiato idea e ha detto no, è stata tutta una favola. Non è stata una favola, altrimenti Berlusconi non avrebbe fatto un passo indietro, questo credo che anche lui lo riconoscerebbe, anche se adesso siamo in campagna elettorale e deve minimizzare l'operazione Monti. Abbiamo Ivano da Roma, adesso lo risentiamo, prima di tutto però una risposta su Facebook ad Antonio che dice: Radio 24 devono avere deciso, dopo aver fatto fuori Giannino, che dopo Natale tutto pro Monti, almeno così sembra dal conduttore. Dal conduttore che sarei io in questo momento, che non è pro Monti, stiamo parlando tranquillamente, però una cosa vorrei dire: non è che abbiamo fatto fuori Giannino, Radio 24 ha fatto fuori Giannino. Sia chiaro che Giannino ha fatto una scelta, che è quella di scendere in politica, e credo che lo sappiate tutti perché da questi microfoni ne ha parlato molto, e è una scelta incompatibile con quella di fare una trasmissione alla radio di informazione dove si informa su tutti quelli che sono i movimenti che parteciperanno alle elezioni. C'è una legge che si chiama, adesso non mi ricordo, quella sulla, come si chiama la legge, la par condicio, per cui o Radio 24 paga la multa perché c'è Giannino in onda, oppure Radio Giannino è candidato e quindi la trasmissione finisce per questo. Sia chiaro che questo è, almeno per quanto ne so io, quello che è accaduto. Quindi poi pro Monti, non pro Monti, queste sono le solite panzane di chi vuole vedere dietrologie e schieramenti ovunque. Ivano, che stavamo dicendo? Sì. Stavamo dicendo che oltretutto sì, ha avuto anche dei bei regali, perché ha avuto un PD leale fino in fondo al suo mandato. Sì. Ha avuto un PDL che gli ha regalato la sfiducia, quindi dandogli un motivo per scendere in campo contro il PDL. Poi ha avuto il partito di Porzio Pilato, cioè l'UDC, che da sempre se ne lava le mani e sta dove gli fa comodo, che lo appoggiava. Mm. Vabbè, insomma, Monti ha avuto tutti a suo sostegno, questo è evidente. Adesso, però, la domanda che le faccio è: andare a cercare i voti, no? Dopo quello che ha fatto e continuando a proporre sacrifici, del resto lo dicono tutti, Monti, il partito delle tasse. Adesso lei come valuta questa scelta? Ma io la valuto da operaio, ovvero sia, non posso votare un PDL perché in questo momento non mi rappresenta e non ha i mezzi per governare. Non appoggio il PD perché è sempre più una magistratura, ci farà diventare uno stato di polizia. Cosa ci resta? Non so, dica lei, non so. Monti. Quindi lei alla fine, dopo tutto questo panegirico, anzi questo panegirico, dopo tutta questa serie di critiche, alla fine mi dice che lei sceglierà Monti. No, non che sceglierò Monti, che mi hanno obbligato a scegliere Monti. Va bene, va bene, Ivano, grazie. L'ha detto. Andiamo a Giuseppe da Latina, buonasera. Prego. Buonasera. Senta, io piccolo intervento, complimenti per la trasmissione. Volevo fare un piccolo appunto sul Movimento 5 Stelle, quindi per un voto di rottura. Voto di rottura. Con cosa dobbiamo rompere? Ma rottura verso tutto il mondo, no, il mondo politico che in questi vent'anni. Sì, vabbè, chiaro, sì, sì. Quindi è un voto di rottura a Grillo. Quindi, e poi un'altra cosa, se posso aggiungere, questa ingiustizia dell'IMU che non viene fatta pagare sui palazzi storici. Mi sembra un'ingiustizia grandissima, proprio, insomma. Sì. Va bene, grazie, grazie anche a Giuseppe. Andiamo a Foggia. Francesco, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io ho ascoltato poc'anzi Chino. Sì. Ho notato tanti elementi di scorrettezza da parte sua. Perché per esempio, se dovessi ricordare cosa ha fatto Monti in un anno, a parte gli spread, nulla di buono, anche il deficit pubblico. Io prima ho sentito lei dire che ha risanato un po' i conti pubblici, anche questa affermazione è un po' parzialmente vera, perché quando Monti è entrato il deficit pubblico era di 1.875 miliardi di euro, adesso siamo a 2.010 miliardi di euro, quindi anche in questo campo Monti non è che abbia risolto più di tanto. L'unica cosa che rimane sono gli spread, che effettivamente sono ridotti, ma dovremmo considerare anche chi c'era prima. Il pagliaccio che c'era prima, rispetto al pagliaccio che c'era prima, credo che chiunque avrebbe fatto ridurre gli spread. Anche io e lei, insomma. Sicuramente avremmo ottenuto un risultato quasi analogo. Qualche altra imprecisione nel discorso di Chino? Qualche altra scorrettezza? Sì. Poi non la sento, Francesco, non la sento, per cui o rifacciamo meglio questa telefonata e così Francesco continua a elencarci le scorrettezze di Chino, oppure così non si capisce nulla. Gabriele da Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Ho ascoltato la Ma Francesco, però recuperiamo, perché se no sembra che gli abbiamo tolto la parola. No, invece è proprio per sentirlo meglio. Prego, Gabriele. Ecco, se mi sente, io ho sentito la trasmissione alla radio e ora sono uscito dalla macchina e ho sentito dire che Monte scenderà, salirà in politica. Credo che la parola o il verbo da utilizzare fosse più appropriato. Non vada sul volgare, terra, eh? Perché scendere a fianco delle famiglie, delle imprese che oggi vivono un momento difficilissimo. Ci sono tantissime piccole e medie imprese che stanno chiudendo, quindi appoggeranno la partita IVA alla parete, e tutto questo grazie a una politica che secondo me da cittadino oggi diciamo disoccupato, senza un lavoro, a 59 anni può dire che ha passato una vita al lavoro e oggi non ha ammortizzatori sociali che lo possono coprire da qui ai 67 anni in cui dovrà andare in pensione. Ora io dico, e penso che se è possibile anche avere una risposta, se Monti ha messo l'IMU sulla casa e sulle aziende e su tutti i fabbricati e non ha chiesto l'IMU sulle gli immobili e le strutture che hanno le fondazioni bancarie, hanno le sedi dei sindacati e soprattutto tutti quegli enti che si sono definiti onlus, quindi senza fini di lucro, quindi anche sulla Chiesa stessa, su alcune strutture, naturalmente non dico sulle strutture di culto, ecco, poteva dimezzare, sì, intervenire su tutti quegli stipendi superiori ai 4.000-5.000 euro al mese? Questo è il punto di domanda. Se Monti avesse tagliato degli stipendi e delle pensioni d'oro, che leggo su internet perché sono pubbliche anche, anche gli stipendi e tutti i privilegi che vengono dati. Sì, anch'io credo che se Monti avesse avuto più coraggio avrebbe adesso alle elezioni avrebbe preso il 40% se avesse tagliato davvero una serie di sprechi. È chiaro che quest'opera che è stata presentata di taglio agli sprechi in realtà è incompiuta, ma non tanto perché il PDL ha tolto il sostegno a Monti due mesi prima, no, quanto perché a un certo punto forse anche per i veti incrociati del PD e del PDL, come è accaduto anche in passato, o forse per inerzia, non lo so, o forse perché l'operazione, qualcuno in malafede dice, non era neanche quella che aveva in mente di fare Monti, vedetela come volete, sicuramente si è interrotta. Poi misureremo alle elezioni quanto invece gli italiani credono che Monti abbia ancora da fare in termini di taglio agli sprechi, perché chi farà questo, io sono convinto, verrà rieletto eternamente, perché insomma gli italiani di questo ne hanno piene le scatole. Certamente, forse quelli che non vivono di questo parassitismo, che è una parte della spesa pubblica, perché poi ricordiamoci che c'è anche questo, no? C'è chi ci vive e che ha parenti o persone che vivono di consulenze o di questo parastato, per cui alla fine portano alla fine del mese a casa qualcosa proprio per questo, e quindi poi quando si comincia a parlare di tagli c'è sempre qualcuno o qualcosa che vacilla, ma tant'è. Vittorio da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera. Io sono... Anzi, scusa, ma non avevamo in sospeso l'ascoltatore, quello ce l'abbiamo? Lo risentiamo dopo. Vittorio, prego. Buonasera, sì. Sono marito di una dirigente di un'azienda editoriale e ho il piacere di lavare i piatti tutte le sere. E alla facciaccia di Don Piero. E pulire la casa. Sì. E credo che di fronte a molte carriere di molti uomini importanti ci siano delle mogli che li hanno aiutati in questo modo. Sì. Io ho una moglie, per fortuna, che è una persona di grande valore, che ha fatto strada, sì. E io l'aiuto in questo modo. E tra l'altro non sento nessun bisogno di chiamare nessun prete. Per occhio, dirlo. Perché secondo il ragionamento di Don Piero, se lei non lava i piatti, sua moglie è autorizzata a tornare a casa a ucciderla. Perché questo è quello che ha detto Don Piero. Secondo me è un po' sciocchino. Insomma. Dico sciocchino perché mi trattengo, insomma. No, no, io grazie Vittorio. Tra l'altro, ripeto, se questo signore, questo Don Piero, voleva affrontare il tema dei carichi di lavoro all'interno della coppia, mettiamola così, tra uomo e donna, si può discutere tutto. A parte il fatto che oggi le donne lavorano molte e quindi chi l'ha detto che tocca a lei di lavare i piatti, ma insomma si può discutere di tutto, ma lasciamo da parte il femminicidio, cioè non è che questo autorizza poi qualcuno a menare le mani, perché questo è quello che lui ha assurdamente detto, ma non indirettamente, l'ha proprio scritto, perché quello che c'è scritto è che basta andarsela a leggere il volantino. Siamo già alla pausa o no ancora? Allora, non mi ricordo come si chiama l'ascoltatore, Francesco. Francesco c'è? Sì, pronto. La Foggia, eccolo qua. No, perché lei aveva un elenco di cose che voleva ridire a Pietro Ichino, che è stato nostro ospite. Ecco, adesso abbiamo recuperato allora. Il contatto. Tu sei straordinaria, sia esteticamente che come amica. Cioè, io ne ho provate tante, ma nessuna mi dà le brivide che mi dai tu. Voglio scrivere la mia storia in coppa a te, smemoranda. Smemoranda, smemoranda, è l'agenda. Proprio vero che Monti è come le banche, ci tartassano tutto l'anno e poi a Natale ci regalano un'inutile agenda. Signor giudice, signori della corte, io avevo smesso di rubare, ma poi quando l'ho vista dentro a quella cartoleria, così bella, unica, irresistibile, me l'ha già fottuta. Noi proseguiremo il cammino intrapreso dalle primarie, costruiremo con l'agenda Monti, diciamo così, un rapporto di discontinuità. Noi abbiamo deciso di portare al governo l'agenda Bersani. Non significa che dopo il tempo delle formiche arriva il tempo delle cicale. Ci metti dentro l'appuntamento, ci scrivi ciò che da parate. Pare evidente che voglia mantenere l'IMU, aumentare l'IVA e mettere la patrimoniale. Credo che per le famiglie e le imprese, se dovesse realizzarsi questa agenda, si preannunciano tempi preoccupanti. Monti come le banche, dice la Sant'Anchè, che quando arriva Natale ti regalano l'agenda dopo averti fatto pagare il conto salato. Questa della Sant'Anchè non è male. L'agenda Monti entrerà probabilmente nel simbolo, in qualche modo, la parola agenda, così aveva detto anche Ichino, nel simbolo che verrà presentato. Sicuramente sarà una lista unica al Senato per superare la soglia di sbarramento, probabilmente si lavora per una lista unica anche alla Camera, ma potrebbe non essere così, lo scopriremo nelle prossime ore. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS, titoli TG3. Monti spinge per una lista unica che lo sostenga. Casini no, gli opportunisti dell'ultima ora, al professore l'appoggio del Vaticano. Berlusconi dilaga in TV, la Rai stesso spazio agli altri leader, il Cavaliere, Monti sale in politica perché era in basso, Grillo premier anticostituzionale. Il procuratore nazionale antimafia Grasso si candida con il PD e si dimette dalla magistratura, una scelta irrevocabile, al via la corsa per le primarie. Sondaggio del TG3, una lista unica di Monti varrebbe leggermente di più di una possibile coalizione, ma senza una candidatura ufficiale i consensi crollano. Ci aspetta un anno di rincari alimentari, tariffe e bollette, nuova tassa sui rifiuti per i consumatori fino a 1.500 euro a famiglia. Smentisce di pentirsi e di voler lasciare l'abito talare, il sacerdote autore del volantino sui femminicidi, mi prendo solo un periodo di riposo. In India il drammatico fenomeno degli stupri di gruppo, per le donne è pericoloso andare in giro, gravi le condizioni della giovane violentata a Delhi. Memoranda! meglio che c'è. Ci metti dentro la sala. Poi dice che i magistrati sono tutti di sinistra. Va a vedere che alla fine aveva ragione Berlusconi quando diceva questo. Grasso si candida col PD, Ingroia si candida con la sinistra. Per ora, insomma, la maggior parte di quelli che si candidano, i magistrati, vanno tutti a sinistra. Ma avevamo in attesa il nostro Francesco da Foggia, che insomma aveva messo, voleva mettere i puntini sulle i rispetto al discorso di Ichino, che ha confermato che sosterrà Monti. Prego Francesco. Sì, adesso ho ascoltato la sua affermazione un po' ironica, no, sui magistrati di sinistra. Secondo me diciamo che i più bravi si candidano a sinistra, ma non si può dire che tutta la magistratura è di sinistra, perché ci sono tanti magistrati. I più bravi, beh, Ingroia, insomma, Grasso sicuramente credo sia riconosciuto. Magari sono quelli bravi che chiaramente sanno come stanno le cose in Italia e quindi decidono di candidarsi da una parte. Cioè, i più bravi, lei era ironico, nel senso i più furbi, voleva dire. No, secondo me i più furbi no, perché chi è furbo non viaggia scortato e fa la vita che hanno fatto, che fanno questi magistrati, fanno carriera diversamente. Allora, perché quelli che si candidano, quelli che non si candidano alla sinistra, cosa, non sono bravi? Non ho capito. Quelli che si candidano a sinistra, io vedo che sono sempre i più bravi. Quelli che si candidano a destra, che ci sono stati, non li ho mai sentiti nominare. E non è gente che ha sempre indagato su Berlusconi, è gente che fa indagini e che dopo un po' decide di impegnarsi in politica e guarda caso si impegna a sinistra. Ma dire che tutti i magistrati sono di sinistra, voglio dire, è una battuta, è ovvio. No, prendiamo atto del fatto che quelli che si candidano molti ragionano come lei, insomma, lei l'ha fatto in modo ironico, però effettivamente certo, l'ironia è così, insomma, uno la butta lì, poi chiaro sta a chi ascolta di saper distinguere. Francesco, però torniamo a bomba Ichino. Allora, secondo me le due scorrettezze più grosse che ho rilevato mentre lui parlava sono quella su Draghi, che lui ha detto che praticamente è grazie alla credibilità del governo italiano che Draghi ha potuto battere i pugni sul tavolo e imporre un acquisto di bond illimitato. Lui disse a fine agosto, no? Che avrebbe fatto di tutto per pur di salvare l'euro e avrebbe quindi effettuato anche degli acquisti di bond illimitato. In quella riunione della BCE tutti gli stati europei erano d'accordo tranne uno, e lui uscì dalla riunione dicendo ironicamente: sono tutti d'accordo tranne uno, indovinate chi è? Cioè, è Draghi, ascoltando anche molti specialisti, io non sono uno specialista, però sono un radio. Vabbè, questa era una, questa era una. Ascoltando molti specialisti dicono che gli spread si sono abbassati grazie all'attività di Draghi e non di Monti. Poi la seconda è che io ho rilevato veramente una scorrettezza, e quando lei gli ha chiesto tra Albertini e Ambrosoli chi appoggiasse lui, e lui però prima ancora aveva fatto la domanda su Vendola, che in Puglia aveva fatto bene, no? Allora lui ha posto la risposta sull'agenda europea, perché lui dice che chi appoggia Monti appoggia l'Europa, chi è contro Monti è contro l'Europa. Non è così. Io sono contro l'agenda Monti, ma non sono contro l'Europa. Io sono contro l'Europa degli accordi fatti 15 anni fa. Andiamo a vedere che accordi furono fatti in sede di WTO, di Commissione Europea, eccetera, eccetera. Sì. Io sono contro. Sicuramente, per esempio, per citare Vendola, fa parte di quella sinistra che è contro Monti, ma non è contro l'Europa. Su questo mi sembra. Ancora non ho votato SEL, non ho ancora votato, però io. Delle agenzie giornalistiche che ce l'ho in mano su internet, le prime quattro che vengono tirando fuori da un'interrogazione su Google. Allora, fondi Unione Europea al sud, aumenta la spesa, la Puglia fa meglio di tutti. Fondi Unione Europea, Vendola, la Puglia ha la migliore capacità di spesa. Quindi se Europa è attivarsi per avere i finanziamenti, per far progredire la propria economia, diciamo che Vendola è filoeuropeista, no? Allora, se lui mi dice che tra Albertini e Ambrosoli sceglie chi è più filoeuropeista, avrei gradito in precedenza una risposta del tipo: Vendola è una persona preparata, che ha delle sue idee, che fa bene, perché ha fatto il governatore due volte in Puglia. Va bene, Francesco, mi sembra che lei abbia espresso chiaramente questi punti di vista su Ichino. Grazie, la ringrazio anche per l'attesa. Abbiamo fatto anche questo. Adesso un altro ascoltatore, e poi forse tra poco con il prossimo ospite. Fabrizio da Padova, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Complimenti per la trasmissione. Volevo fare una premessa. Io sono contrario a qualsiasi forma di violenza. Però secondo me deve essere, è giusto da uomo, dare a Cesare quel che è di Cesare. Ultimamente in questi giorni è stato crocefisso Don Piero Corsi, che ha messo in risalto un problema, cioè come spesso accade le donne hanno la lingua pungente, e in un momento di crisi crisi in cui c'è una grandissima tensione, mi scuso, anch'io sono un po' teso, non sono abituato a parlare alla radio. No, ma sei tranquillo, non si preoccupi. In un momento di tensione, io faccio il consulente, in cui la gente è veramente disperata, in cui veramente persone che mai ti aspetteresti hanno degli scatti impulsivi pesanti. Io ho assistito donne che hanno sminuito e hanno offeso i loro rispettivi mariti in maniera pesante, denigrandoli e riducendoli a piccola cosa. Ma lui non dice questo però, Don Piero, nel suo volantino non è che parla di donne che offendono i mariti, parla di donne che abbandonano, non lavano i piatti e non lavano i vestiti, i bambini abbandonati. Lui fa un discorso molto più ampio, lei lo legge. No, io l'ho letto, ma non è molto ampio il discorso, alla fine il fulcro è quella frase lì, è quella frase... Lui fa un discorso molto più ampio, perché poi deve vedere quello che ha detto in chiesa. Lui di fatto dice che la donna aveva una collocazione che oggi non ha più di fatto sta prendendo il ruolo del maschio, in parte è vero, in parte no. Io sto dicendo che spesso accade, l'ho visto, l'ho vissuta, non direttamente ma indirettamente, mi sono vergognato di essere lì presente, dove ho visto delle donne che in maniera molto, hanno una lingua che taglia, che cuce, sono molto, molto, a volte molto pesanti, non si rendono conto con quale violenza usano certe parole, e mi sono reso conto che l'uomo, che probabilmente è più animale, è più portato allo scontro fisico, potrebbe reagire. Per cui Ma questo ha a che fare, questo ha a che fare con le caratteristiche, come ognuno le vede, dell'uomo e della donna e nel rapporto di coppia. Quello che non va del discorso di Don Piero è che la premessa, cioè il femminicidio, fate autocritica, cioè uno può dire le donne mancano al loro ruolo all'interno della famiglia oggi, oppure gli uomini mancano, e questa è una questione di punti di vista, però poi non si può concludere che allora certe aggressioni sono giustificate, perché questo altrimenti equivale... Quello che lui ha detto, no, no, bisogna leggere quello che ha scritto, non sentire quello che... ognuno può aver sentito una parte di un discorso di Don Piero. Io rimango a quello che ha fatto scandalizzare tutti, cioè quel volantino, e questa volta i giornalisti non c'entrano nulla, perché è proprio scritto, quindi basta andarselo a leggere. Bastava non tirare in ballo il femminicidio, è la parola che lui ha usato, ha capito? Concordo, ripeto, però torno a dirle, io per lavoro faccio il consulente, sono abituato a vedere e leggere numeri e statistiche. Quello che sto vedendo è che in un momento veramente pesante, io mai avrei pensato che l'Italia passasse, io sono nel nord-est ma lavoro fra il nord-est e il nord-ovest, mai avrei pensato di vedere certe realtà. Le posso dire che... Lei pensa che questa realtà, questa crisi che stiamo vivendo, si risolverebbe se le donne stessero di più a casa a badare i figli? No, la domanda non è provocatoria, la domanda è reale. Cioè lei pensa questo, oppure come succede in altri paesi le donne partecipano all'occupazione? In Italia si sa che le donne lavorano meno che altrove, tra l'altro fanno anche meno figli, quindi diciamo cornute e mazziate, perché non lavorano ma neanche fanno figli. Cioè lei dice che si risolverebbe invece se le donne stessero a casa a fare figli, si starebbe meglio? Potremmo affrontarla molto meglio se fossimo tutti più uniti, partendo dalla famiglia. Però, allora, se lei dice questo, Don Piero è proprio fuori linea, perché non mi pare un messaggio di unità quello di Don Piero. Grazie. Lui ha richiamato all'ordine quello che lui vede di più. E in un momento lei dice richiamare all'ordine, però ripeto, lì si sono usate delle parole femminicidio, che vuol dire uccidere le donne. E poi ha sentito come si è rivolta alle giornaliste, glielo faccio sentire, perché poi ci sono anche degli ascoltatori che dicono: chi è più talebano, Don Piero o chi lo vuole lapidare? È lui che vuole lapidare tutti. Sentite come si è rivolta a questa povera giornalista e gli ha augurato che le prenda un colpo. Sentiamo un attimo. Buongiorno, parlo con Don Pietro Corsi. Dipende con chi parlo io. Sono una giornalista, Elisa Esposito, dell'agenzia radiofonica. Per lei, siete una razza di carogne, gente che dice soltanto bugie, che prendete e linciate le persone. Non ho capito, mi scusi. Siete dei disgraziati, persone che linciate le persone, siete dei malvagi, giullari che per avere un pasto mettete crocifiggete le persone. Lo dice sul serio, Don Corsi? Guardi, mi auguro che le venga un colpo, mi auguro... che faccia un incidente. Io immagino che lei stia usando dell'ironia, non capisco perché si rivolge a me, non mi conosce nemmeno in questo perché, modo. Perché appunto, perché voi senza conoscermi avete scritto cose che io non ho detto, quello è il bello. Voi parlate al telefono, a me avete messo in piazza. Insomma, questo dice, le auguro che le venga un colpo, giornalisti malvagi. Io capisco che prendersela con i giornalisti possa anche essere, vada anche di moda, insomma, e ci sia anche un fondamento di verità, perché di errori ne facciamo tanti. Però stavolta lui ha scritto delle parole che sono state riportate tutto lì. Insomma, bello aggressivo, Don Piero. Fabrizio, ha sentito? Lui è anche, tra parentesi, un esorcista. Per cui c'è che cos'è? Un esorcista. Per cui di fatto Don Piero è una persona che ha un'idea molto chiara di quello che dovrebbe essere il bene e il male. Poi in un momento quando siamo sotto pressione, lei mi insegna che fa giornalista, sì. Di fatto si può reagire bene o reagire male. Lui ha reagito male, sì. Sì, magari lui ha reagito in maniera un po' troppo, probabilmente sotto pressione, un po' troppo aggressiva, ma normalmente io sono convinto che non sia così. Però a prescindere da questo, torno a dirle, in un momento di crisi dobbiamo essere tutti molto più uniti, partendo dalla famiglia, e questo io non lo sto vedendo. Va bene, grazie Fabrizio. Salutiamo intanto il nostro prossimo ospite, Giampaolo Vallardi, senatore della Lega Nord, sindaco di Chiarano, siamo in provincia di Treviso. Benvenuto Vallardi. Buonasera a tutti. Allora, un breve saluto perché poi dobbiamo fermarci per le informazioni sui mercati finanziari. La Lega è un po' in questo momento, potrebbe essere ago della bilancia in Lombardia, una regione chiave. Maroni si è candidato, non è chiaro però se, come chiede Berlusconi, ci sarà l'alleanza col PDL in Lombardia, ma anche a livello nazionale. Tosi, per esempio, il sindaco di Verona, sostiene che non ci deve essere questa alleanza, che la base della Lega non la vuole. Lei che ne pensa, tra l'altro? Poi parliamo anche della questione del videopoker, però cominciamo da qui. Ma guardi, noi vogliamo vincere le elezioni, sì, in Lombardia. Vogliamo possibilmente essere l'ago della bilancia per il prossimo governo, se possibile, perché chiaramente credo che quello che è successo negli ultimi 12 mesi in questo paese con il governo Monti sia sicuramente un qualcosa da non auspicare per il futuro di questo paese. Se poi questo lo possiamo ottenere con l'alleanza con il PDL, ben venga. 9:34 minuti in compagnia di Giampaolo Vallardi, sindaco di Chiarano, provincia di Treviso, senatore della Lega Nord, che leggiamo dal giornale di oggi, ha, come si dice in questi casi, lanciato la sua crociata contro i videopoker. È così? Cosa? Ma cerchiamo. Sì. Cerchiamo di fare qualcosa di positivo per tutte quelle persone che purtroppo sono soggette a questa dipendenza dal gioco d'azzardo, e visto che dal punto di vista normativo, cioè seguendo quelli che sono i poteri, sì, normali di un sindaco, oppure visto che le varie proposte che abbiamo fatto in Senato sono andate tutte quante buttate al vento perché il governo non ci ha ascoltato, allora ho cercato e sto cercando di sensibilizzare le persone sui pericoli del fenomeno. In particolare contro cosa? Perché poi bisogna anche distinguere tra i vari tipi di gioco. E poi, insomma, sembra un po' una cosa da buonisti di sinistra, no? Prendersela contro le macchinette, i videopoker, il gioco, eccetera. Invece, forse stupisce, o forse no, pensare che anche la Lega sia schierata su questa cosa qua. Per esempio in Toscana i circoli Arci a Prato credo abbiano fatto, insomma, un ostracismo, hanno tolto le macchinette, eccetera. Cioè, questa cosa non vi stupisce essere in compagnia di questo, per esempio dell'Arci? Ma guardi, la Lega Nord cerca sempre di fare il bene della gente, come credo tanti altri partiti. Io credo sia un'operazione di buon senso. In questo momento di particolare anche difficoltà economica, purtroppo la gente si butta in questa disperata ricerca della fortuna. Difatti il fenomeno del gioco d'azzardo ha avuto un'impennata esponenziale in questo periodo. Ma secondo lei c'è gente proprio malata, in cura? Perché c'è anche... Sì, il fenomeno, guardi, il fenomeno si chiama ludopatia, no? E pensi che i CERT, che sono i centri istituzionalmente preposti nelle varie unità locali sanitarie, che recuperano sia i tossicodipendenti che i malati da alcolismo, quindi tutte quelle persone che cronicamente hanno dei problemi di dipendenza, stanno seguendo un numero di persone maggiore per i malati di ludopatia, quindi i malati, sì, di gioco, piuttosto che le persone che recuperano dalla droga, piuttosto che dall'alcolismo. Questo ci fa pensare il numero spaventoso di persone che si stanno buttando nel gioco d'azzardo. Ma lei esattamente che cosa pensa di fare? Cioè, mi ha detto che metterà dei cartelli per sensibilizzare. A Bolzano credo che il comune sia intervenuto, non so come, per chiudere o togliere le licenze. Guardi, dobbiamo affrontare il problema. Sì. Visto che dal punto di vista normativo il governo purtroppo lo ha legalizzato il gioco d'azzardo, nonostante ci siano diversi disegni di legge che tendono a vietare il gioco d'azzardo, allora l'unico modo, secondo me, in questo momento, finché qualcuno al governo non pensa diversamente, è quello di far sì che la gente rifletta su questo triste fenomeno, perché giocare ai video poker piuttosto che tutti i giochi online che stanno proliferando in questo momento significa buttare i soldi dalla finestra, significa buttare gli stipendi, tantissima gente si mangia lo stipendio e quindi chiaramente l'unico modo è colpire l'attenzione di queste persone, cercare di farle rinsavire. E quindi lei punta a questo, cioè a mettere dei cartelli. Sì. Quindi lei sta mettendo, cosa fa, dei cartelli? Ma sono dei cartelli luminosi a messaggi variabili che tendono a colpire l'attenzione della gente, ma più che colpire, farli riflettere, fargli capire che stanno buttando i soldi guadagnati magari col sudore della fronte e chiaramente in questo momento di particolare difficoltà economica è difficile poi recuperare queste cose. Senta, ma si dice che, sto tornando al discorso di politica, no? Più nazionale, questa ipotesi di Tremonti, candidato premier che potrebbe rinsaldare l'alleanza col PDL, e Berlusconi cosa farebbe? Il leader della coalizione? Ma guardi, sono tutte quante ipotesi, decideranno poi i segretari dei vari partiti, per noi Roberto Maroni sicuramente ha la capacità di fare la scelta migliore. Io credo che in questo momento, se è Tremonti, mi va bene, l'importante è che vada a casa il governo Monti, perché io credo che peggio di così in questo paese non potrebbe andare. Ma nell'ipotesi non andasse in porto l'alleanza con Berlusconi, voi che farete? Cioè, sarete costretti ad andare da soli, anche per esempio in Lombardia? Lei pensa che Maroni, perché Tosi dice che Maroni potrebbe prendere il voto degli scontenti, anche del governo Monti, quindi il valore aggiunto del PDL potrebbe addirittura essere ininfluente. Anche lei la pensa come Maroni? Ma io credo che Maroni abbia dimostrato in tutti gli anni che è stato ministro, sì, degli interni, con i successi che ha soprattutto ottenuto nella lotta alla mafia, di avere un valore sicuramente non paragonabile a nessun altro ministro degli interni che ha avuto questa Repubblica. E non lo dico io perché sono della Lega, ma sono i numeri, i successi che ha ottenuto. Sì. Quindi io credo che in questo momento, può prendere i voti, se fosse un cittadino lombardo, al di là dell'appartenenza politica, voterei per Roberto Maroni. Va bene, fermiamoci qua. Grazie il senatore Giampaolo Vallardi, sindaco di Chiarano, la sua crociata, per ora solo informativa, suon di cartelli luminosi contro le macchinette del videopoker, e questa era la notizia che veniva appunto da Treviso. 800 24 00 24, riprendiamo con i vostri interventi. Abbiamo Silvana che ci chiama da Pordenone. Silvana, buonasera. Buonasera, mi scusi, intanto complimenti per la vostra radio, perché vi ascolto dalla mattina alla sera. E volevo soltanto dire che personalmente ho provato la sensazione di avere intorno a noi non degli uomini veri, ma dei maschilisti. Faccio un esempio: il sottobosco è a tutti i livelli, perché entro in una separazione e il giudice, dato che io sono alta 1,70 e peso 50 kg, mi dice: ma signora, come fa a avere paura del suo marito così bella grossa? No, aspetti com'è, un attimo, no? Il giudice della separazione, sì, in tribunale. Perché lei aveva denunciato qualche, certo, io maltrattamento? Sono separata per colpa del marito, perché ha un, sì, carattere collerico, virgola. Ma andiamo avanti. Vado dal mio medico con un occhio nero per dirgli che voglio fare un certificato medico per attestare questo, e mi dice di tornare a casa tranquilla e di preparargli una bella pasta asciutta e di mangiare tutti insieme. Quest'estate, che c'era un caldo diabolico, fatalità, passo vicino a una casa, sento urlare, piatti che volano fuori dalla finestra, sì. Chiamo il 113, dico scusate venite, c'è un intervento da fare in questa, ma perché la signora che io sto aiuto? No, credo che stia a essere sommersa da un uomo, e il poliziotto mi risponde, ma sa, a volte portano veramente all'esasperazione le donne. E allora voglio dire semplicemente, capisce, c'è un sottobosco. Cioè lei dice che ha riscontrato che si danno spese, corda, che c'è un'opinione diffusa. Per niente. Sì. Un'opinione diffusa. Scusate, è la mia opinione, così no, ma è andato di fatto. Quindi lei conferma questa cosa, ma secondo lei Don Piero quindi cioè, ha solo il coraggio di dire quello che altri pensano, non è uno squilibrato? Sì, sì, sì. Tra maschi non si conoscono, ma si autodifendono comunque, perché comunque una donna che si separa per colpa è comunque, tra virgolette, sottolineato, una stronza, scusi il termine. Va bene, scusi Silvana, vediamo se qualche altro ascoltatore si sente di commentare quello che lei ha detto. 800 24 00 24, io ho chiesto stasera agli ascoltatori che vogliono sfogarsi su questo presunto ruolo delle donne che non che farebbero saltare le famiglie, quindi poi secondo le conclusioni per me aberranti di Don Piero, la prima parte del discorso ci può anche stare, cioè ripeto, se si voleva parlare del rapporto di coppia, degli equilibri all'interno dei carichi di lavoro in una famiglia, se ne potrebbe parlare per ore anche scherzandoci su. Quello che secondo me, e lo ripeto, non va nel volantino di Don Piero è il titolo femminicidio, fate autocritica, cioè se si parla di violenza, di menare le mani, non c'è scusa che tenga, non bisogna farlo e basta, almeno questo è quello che penso io. Dove andiamo? Claudio dalla provincia di Rimini, buonasera. Buonasera a lei. Prego. Io intanto volevo manifestare la mia solidarietà alla signora che ha parlato prima, Silvana. Poi invece volevo parlare un attimo di Chino, sì? Questo signore che io ho sentito tornando dal lavoro come tutte le sere. Chino che lo ricordo perché un'ora fa, anche più un'ora e mezza fa, ha confermato qui ai nostri microfoni che intende candidarsi con Monti nella lista, probabilmente sarà capolista al Senato. Prego. Avrà ottenuto il risultato che vuole, io invece faccio parte di quell'ampia schiera di lavoratori veri, quelli che danno un prodotto alla fine del mese, sono un dipendente, ma lavoro in simbiosi con il mio titolare, quindi non è che sono uno contro il lavoro oppure sono uno legato alla CGIL, però sono stanco di sentirmi dire da questa gente che io, che ho 53 anni, porto via il posto di lavoro mio figlio, che ne ha 25. Io guardi, mi sto incartando e sono un chiacchierone, perché è una cosa che mi umilia e mi ferisce. Tutte le volte devo sentire dire che questa gente, che il lavoro è moderno, che va cambiato, che basta rendita di posizione. Se vogliono provare la rendita di posizione di un impiegato che ha 3 diplomi, conosce 2 lingue e fa un lavoro più alto probabilmente di quello del suo diploma perché se lo è meritato, se vogliono provare possono venire in fabbrica tutte le mattine. Io sono veramente arrabbiato con questa gente come Ichino, e lo dico, che è un ex senatore PD, ma adesso che ha ottenuto i risultati che ha voluto andrà a fare quello che vuole da un'altra parte, che del lavoro, e uso le parole che non vorrei usare, non sa nulla. Va bene, lui grazie. Parla di grandi sistemi, di grandi numeri, ma lui in fabbrica non ci ha mai messo un piede. Grazie Claudio. E salutiamo Emanuele Lauria, giornalista di Repubblica a Palermo. Emanuele, benvenuto, ciao. Buonasera, ciao. Allora, il titolo dell'articolo di cui parliamo è questo: arriva la prima busta paga dei grillini, per ora incassano lo stipendio pieno, non è ancora stata definita la procedura per la cessione parziale dei redditi. Cancelleri, che è il portavoce, il capogruppo in Sicilia, risolveremo il problema nel 2013. Questo articolo ha suscitato la reazione in particolare del vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Grillino, Antonio Venturino, che ha messo un video su YouTube attaccando abbastanza frontalmente Emanuele Lauria, giornalista di Repubblica, estensore di questo articolo. Sentiamo il video su YouTube e poi facciamo il punto. Ce l'abbiamo il video? Sì, ce lo dovremmo avere, sentiamolo. 24 dicembre, sono le 16:25, siamo ancora qui all'ARS. Gli altri, come è giusto, sono già tornati a casa dalle loro famiglie. Noi siamo ancora qui perché stiamo girando un piccolissimo cortometraggio dal titolo Lauria, ovvero il giornalista che smentiva se stesso. Lo dico con rammanico perché mi sarebbe piaciuto confrontarmi con un giornalista un attimino più attento, che si attenesse più ai fatti, perché il povero Lauria, tutto preso da scrivere chissà che cosa, da fare questo scoop giornalistico, non si era accorto che ben 9 giorni fa il sottoscritto aveva già presentato una rinuncia alla indennità a cui lui fa riferimento nel suo articolo. Quindi lo invito la prossima volta ad essere un attimino più attento, non ci vuole molto, basta internet, leggi, ci sono i video, c'è un po' di tutto, ti documenti e poi scrivi. Lauria, allora intanto ti auguro un buon Natale, spero che tu possa riprenderti dalla sbornia di questa sera, da quelle che verranno per Capodanno, e che crescendo diventi un giornalista degno di questo nome. Ciao. Emanuele, vuoi ricambiare gli auguri a Venturino in qualche modo? Sì, per carità, mi viene da ridere, no, lo faccio volentieri. Ma questa vicenda che ha avuto un clamore anche oltre le mie aspettative, è una vicenda che obiettivamente fa sorridere, cioè, nel senso che il tema dell'articolo era uno, credo sia molto chiaro. I grillini in campagna elettorale, e Beppe Grillo in prima persona, avevano annunciato che avrebbero lasciato alla regione, questo è il termine, la quota eccedente, lo stipendio eccedente i 2.500 euro, certo. E invece, a quello che si è documentato, invece, tu, che è successo? Invece è arrivata la prima busta paga venerdì scorso a tutti i deputati regionali siciliani, quindi anche ai 15 grillini, e in questa busta paga l'indennità sono di circa 12.000 euro. È un fatto che abbiamo registrato e che abbiamo scritto sul giornale. Ora, questa vicenda, io mi rendo conto che ha provocato l'irritazione dei grillini, che magari, voglio dire, anche non per colpa loro, non sono riusciti ancora a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale. Loro parlano di problemi burocratici, problemi fiscali, ecco, ma nei fatti, diciamo, i soldi sono lì, nelle loro buste paga e nei loro conti correnti. Diciamo, che cioè già il fatto di dire questo ha scatenato la reazione. Ma sì, lui dice che ha rinunciato, che ha fatto una lettera in cui rinuncia, ma questa rinuncia, poi il punto è questo. Preciso, il cittadino si chiede, la rinuncia ha degli esiti reali oppure, come hai scritto tu, per ora, finché non risolvono la questione, i soldi si sono messi in tasca. Che poi, insomma, l'intenzione sia quella di restituirli, va benissimo, però tu dici giustamente, per quel che ne so io, i soldi si sono messi in tasca, è così? No, su questo non c'è dubbio, perché i soldi sono sulla busta paga. Perché tu hai visto la busta paga. Ma la busta paga ce l'ho, ma anche lo stesso Cancelleri lo ammette. Sì. La rinuncia a cui fa riferimento Venturino è la rinuncia a una piccola quota della sua indennità, che è l'indennità di funzione. Come vicepresidente. Come vicepresidente dell'Asso, bravo, che è pari a circa 2.300 euro. In sostanza, Venturino, invece dei 12.000 euro che hanno preso tutti i suoi colleghi, avrebbe dovuto prenderne 14.000 circa. Ha rinunciato a quei 2.000 in più, ma siamo ben lontani dai 2.500 di cui parlavano. Però, andando alla sostanza di questa cosa qua, mi sembra di capire, da questo articolo, da quello che tu dici, che forse si potevano preparare meglio per trovare il modo per mettere in pratica questo proposito, che era quello di rinunciare alla quota eccedente 2.500 euro. Cioè, siccome in pratica non è così semplice, perché può sembrare assurdo, però non è così semplice dire non voglio lo stipendio, perché poi ci sono i contributi fiscali, previdenziali, si pagano o non si pagano, si ridanno i soldi alla regione, la regione non sa cosa farsene. Però tu dici, in sostanza, potevate organizzarvi prima, pensarci prima invece di dirlo, e poi non avete ancora trovato il modo per risolverlo. Ma questo. Sì, anche perché, vedi, io ho seguito quotidianamente l'attività dei grillini, che adesso, diciamo, sono tanto irritati. Io ho anche seguito i tentativi fatti da Cancelleri, al portavoce appunto in Sicilia, di fare in modo di non arrivare alla corresponsione della prima mensilità, quindi fare in modo di evitare sostanzialmente di prendersi questi soldi per poi non si sa come restituirli e a chi. E questo non ci è riuscito in questi mesi, cioè è 2 mesi che lui fa un via vai dalle stanze della burocrazia del Parlamento regionale per cercare di risolvere questo problema. La cosa inquietante è non solo che non ci è riuscito, ma che tuttora Cancelleri e Grillini non sanno dire cosa faranno di questi soldi. Io dico che la cosa peggiore ancora è questo video di Venturino nel quale insomma si rivolge a te in maniera così dicendo i fatti, sì, devi vedere i fatti, la smentita sull'annuncio eccetera. Tu hai semplicemente scritto quello che è la situazione adesso, cioè che non hanno ancora trovato il sistema per farlo, punto. Ma e a questo si risponde nessuno, dicendo come ha fatto forse Cancelleri, cioè ha detto lo risolveremo a gennaio, poi vedremo se lo risolveranno o no, ma non certo accusandoti di avere inventato qualcosa. Questo mi sembra, c'è questa allergia proprio ai giornalisti dei grillini che insomma sembra che non ne possano fare a meno. Guarda, il tema è esattamente questo. Devo dire che sia l'ordine dei giornalisti che insomma tutti gli organismi di categoria hanno preso una posizione che poi è una posizione chiara, non è una posizione corporativa, cioè non si può rispondere a un articolo che può contenere anche delle notizie sgradite con un video in cui obiettivamente, diciamo, ora poi sì, ognuno come dire è libero di manifestare come vuole, però obiettivamente si scade diciamo su un piano anche personale, insomma, che poi a me fa sorridere perché lui mi accusa di crescere, io faccio questo lavoro da 20 anni, lui è deputato da un paio di settimane, insomma, quindi voglio dire c'è anche no, poi ripeto, insomma, i giornalisti faranno tanti errori e sarà giusto prendersela con i giornalisti mille volte, però una volta in cui vengono riportati i fatti così come stanno, senza troppo girarci intorno, è stata fatta una promessa anche elettorale, sulla base di questa promessa sono stati anche eletti, perché sappiamo quanta voglia c'è da parte dei cittadini di vedere chiarezza su questo, il risparmio, Grillo punta molto su questo, il suo movimento, allora dire, potevate trovare una soluzione e averla a portata di mano già al primo stipendio, altrimenti poi cosa fa? Si sparge la voce che i grillini non rispettano le loro promesse, e allora questo poi tornerà contro anche loro stessi, insomma. Questo è quello che tu hai fatto, per cui insomma mi sembra chiarissimo. Se mi permetti un'ultima considerazione, io credo nella capacità e anche nel potenziale, come dire... Aggiungo solo prima che tu concluda una cosa, ovviamente abbiamo chiamato sia Cancelleri che Venturino, perché volevamo sentire anche la loro versione, però oggi erano impegnatissimi tutto il giorno. Dicevo... Io credo nel potenziale e nella carica anche innovativa della presenza dei deputati di Grillo nelle istituzioni. Il punto è che se utilizzano queste risposte, queste forme di risposte, diciamo, poi alla fine si rendono, come dire, protagonisti di iniziative che sono forse peggio, diciamo, di quelle che venivano adottate dalla vecchia politica che i grillini stessi contestano. Insomma, cioè questo è il tema, secondo me. Va bene, fermiamoci qua. Grazie, auguri anche a te, a Emanuele Lauria. Buona serata, giornalista di Repubblica Palermo. La notizia, insomma, è questa. Vedremo. Il portavoce dei grillini Cancelleri ha annunciato a gennaio risolveranno questo impiccio e restituiranno la quota eccedente 2.500 euro dei loro emolumenti. 19:54. Direi che possiamo sentire qualcuno all'800 24 0024. Marcello da Roma, buonasera. Buonasera a lei. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, sono un po' emozionato perché non sono abituato a parlare in radio. Tranquillo, siamo tra pochi amici, tra pochi intimi. Sì. Vada. Volevo intervenire per quanto riguarda il caso di Don Piero. Premetto che sono un cattolico praticante e ci mancherebbe altro, prendo le distanze, diciamo, dalle affermazioni di Don Piero, perché una persona così, diciamo, non merita di stare in un posto nella parrocchia. Spero che l'autorità ecclesiastica deputata, in questo caso il vescovo, prenda veramente dei provvedimenti, perché nessuno merita qualsiasi tipo di violenza, soprattutto perché o veste in una maniera un po' più scollata oppure perché non fa le faccende in casa. Però mi dispiace anche un po' per l'affermazione che ha fatto lei, infatti in verità per questo ho chiamato, cioè il confronto tra la Chiesa ortodossa, diciamo il patriarca, sì, della Chiesa e il Romano Pontefice, e dire mandiamo il Papa, diciamo, in Grecia, noi abbiamo prendiamo il patriarca, non mi è piaciuto tanto, perché poi, diciamoci la verità, anche la Chiesa cattolica fa tantissime iniziative, basta pensare, diciamo, a tutte le persone che sono nelle terre di missione e che danno veramente un grande contributo per tutte le popolazioni che sono in difficoltà nel mondo. Vabbè, era un po' una battuta, è ovvio. Io ho voluto accostare questa notizia che mi ha colpito, la leggo così magari qualcuno che non ha ascoltato. Ma io la stimo perché lei è un grandissimo professionista. Ma figuriamoci. No, ma che professionista? Però questa affermazione, nel senso, un bravo giornalista. Grazie. Io ho letto la notizia, la rileggo così poi si capisce meglio per chi magari non era sintonizzato un'ora e mezza fa. Grecia, Chiesa offre le proprie terre da coltivare per aiutare i greci a combattere la crisi economica, è un'ansia di oggi che attanaglia il paese, giunto al quinto anno consecutivo di recessione. Il capo della potente Chiesa greco-ortodossa, l'arcivescovo Ieronimo Anonymous ha offerto ai fedeli la possibilità di coltivare terre di proprietà della Chiesa. Siccome mi sembrava una bella notizia, allora ho voluto così provocatoriamente, ha ragione lei, certo era una sciocchezza, era una battuta, ho detto prendiamoci il patriarca che ha queste belle iniziative e diamogli il papa, però mi consenta, qui forse qualcuno della curia deve intervenire su Don Piero, che come lei da cattolico dice giustamente ha sbagliato, è l'autorità per farlo, ci mancherebbe altro, esatto. Come pure ieri quando è intervenuta la presidente, ma secondo me qualcosa succederà, non rimarrà lì. Ma mi auguro di sì, io ho studiato un po' di diritto canonico, sì. Spero che lo faccia, insomma, perché ha il potere di poterlo fare, insomma. E volevo dire anche una cosa per quanto riguarda ieri che è intervenuta la presidente del Telefono Rosa, cioè la Chiesa maschilista forse un tempo poteva anche esserlo, ci mancherebbe, però adesso c'è un po' un'inversione, sì, di tendenza, perché dei ruoli, ma devo dire che onestamente la presidentessa del Telefono Rosa ha detto poi che questa non è la posizione della Chiesa assolutamente. Sì, certo. Lei stessa l'ha messo. Vabbè, Marcello, grazie. La ringrazio. E noi ringraziamo lei. Vincenzo da Salerno, ancora qualche secondo, non è calata la linea, è caduta la linea. Vincenzo. Eccoci qua, alle 20 e punto, in punto, sentiamo i titoli del TG1. Mano da Monti un appello a recuperare il senso più nobile della politica, il professore al lavoro, ipotesi lista unica. Berlusconi, la salita in politica di Monti perché veniva da un rango inferiore. Maroni al TG1, alleanza col PDL alle nostre condizioni, no scambi di poltrone. Il procuratore antimafia Pietro Grasso lascia la magistratura ed entra in politica, sarà candidato nel Partito Democratico. Allarme Federconsumatori, nel 2013 aumenti fino a 1.500 euro a famiglia, alimentari, benzina, tariffe, le voci che peseranno di più. Non si pente ma andrà in ferie, Don Corso, il parroco del Volantino Shock e l'esorcista di Santa Renzo, ma il paese gli ha voltato le spalle. Lo chiamano Hotel Africa, viaggio nell'inferno di 800 profughi che vivono da 7 anni in un ex edificio universitario di Roma. Regole più restrittive per motociclette e minicar, entreranno in vigore il 19 gennaio, servirà una vera patente per motorini e minicar, con punteggio e sanzioni più severe, solo a 21 anni le moto di grossa cilindrata. Facciamo anche Sky TG24. Monti guarda una lista unica in cassa l'appoggio del Vaticano, il procuratore nazionale antimafia Grasso in campo con il PD. Berlusconi va ancora in TV, non risparmia stoccate sulla salita in politica del professore, l'ultimatum di Alfano alla Lega sulla Lombardia. Volantino Shock sul femminicidio, il prete travolto dalle polemiche spiega: non toglierò l'abito talare ma prenderò un periodo di riposo, dice. Fiorito ai domiciliari dopo 3 mesi di carcere, torna a casa l'ex capogruppo del PDL, alla Regione Lazio accusato di peculato. 2013, salato, in arrivo rincari per bollette, RC auto, biglietti dei treni, consumi a picco per il Coda con scalo del 15%. Torna Masterchef stasera su Sky 1 alle 21.10, prima prova in esterna per la gara culinaria più celebre della TV. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Buongiorno, parlo con Don Pietro Corsi. Dipende se con chi parlo io. Sono una giornalista, Elisa Esposito, dell'agenzia Radio Fontana. Grazie per lei, generata di carogne, gente che dice soltanto bugie, che prendete le linciate le persone. Non ho capito, mi scusi. Siete dei disgraziati, persone che linciate le persone, siete dei malvagi. Giullari che per avere un pasto mettete crocifisso le persone. Lo dice sul serio, Don? Guardi, mi auguro che le venga un colpo. Mi auguro che faccia un incidente. Io immagino che lei stia usando dell'ironia. Non capisco perché si rivolge a me, non mi conosce nemmeno in questo perché, modo. Perché appunto, perché voi senza conoscermi avete scritto cose che io non ho detto. Quello è bello. Poi parla al telefono, me lo avete messo in piazza. Se non può più dare cattivo esempio, così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. Tenga presente che purtroppo ho ricevuto tante di quelle telefonate, non solo di solidarietà, ma anche di uomini disperati che si ritrovano totalmente in quella situazione lì. Però quello è fatto. Comunque, chissà se le riporterete queste cose. Più di un consorzio alimentare. Abbiamo riportate queste cose perché anzi vi chiediamo all'800 24 00 24 proprio questo, cioè di siete tra quegli uomini che si sentono disperati perché le loro compagne vengono meno al ruolo all'interno della famiglia. È un discorso che si può anche affrontare, però ripeto, sarò noioso, ma insomma è il titolo del volantino di Don Piero che non va bene: femminicidio e donne facciano autocritica. Non c'è da fare autocritica quando si parla di menare le mani, di violenza, è evidente, no? È questo che non va. Però lui ritiene di non avere offeso nessuno, Don Piero. Sentiamo quando risponde a questa cosa qua, sempre al microfono del nostro Andrea Ferro. Io non ho offeso nessuno, dice. Non è vero, perché di cosa ti devo chiedere scusa? Per chiedere scusa ci vuole un'offesa. Se voi mi portate l'offesa, io posso anche chiedere scusa. Io non mi sembra di aver offeso nessuno, almeno non ne ho la consapevolezza, almeno. Dimostratemi dov'è, io se ritengo di aver offeso, sono pronto a chiedere scusa, ma io non so di cosa chiedere scusa in questo momento. E va bene, 800 24 00 24, che facciamo? Sentiamo qualche ascoltatore? Sì, Davide da Roma, buonasera. Molto buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma io dico che un parroco ne conosce tante di donne, eh? Mo non vorrei stare qui a dire dei padri separati che vanno a finire, diciamo, alla rovina, oppure, che ne so, ecco, delle donne che scambiandosi proprio di ruolo, tu puoi lavorare pure 4 giorni di seguito, quando torni a casa tua moglie dice: e che hai fatto te? Non hai fatto niente, c'è sta quello da fare, quello da fare. Cercano proprio di, come devi dire, di annientarti, capito? Cioè, sono molteplici le cose che le donne, cioè, prima magari forse era esagerato. Cioè, lei è capitato di sentirsi annientato da qualche donna? Ma sì, insomma, da mia moglie sempre, cioè, che voglio dire, qualsiasi cosa. Guarda, io do uno sguardo al rapporto tra mio padre e mia madre e quello che è il mio oggi con mia moglie. Cioè, lei si rispecchia. Quello di mio padre era troppo, che te devo dire? Mio padre, che faceva suo padre? Mio padre lavorava di notte all'aeroporto, capito? Mi ricordo, guarda, ti dico una cosa, se svegliava magari il pomeriggio e dava un cazzotto al muro e voleva di mi porti il caffè. Io magari cioè lei è cresciuto così, a cazzon di cazzotti al muro. Però non credo che sia stata un'infanzia molto allegra, insomma, quantomeno. Ma no, perché già, poi il ruolo, cioè poi magari... Cioè lei lo farei, lei ha figli oggi, lei ha figli? No. Sì, sono due, però mio padre c'era sti modi, però poi chi comandava era mia mamma. L'ultima decisione era un po' un equilibrio, c'era da una parte veniva ancora da una generazione precedente che era proprio quello che era troppo. Ma suo padre picchiava sua madre? Ma no. Però adesso e allora adesso... allora lei mi dà ragione, cioè finché si parla si può parlare di tutto, finché uno dà un cazzotto contro un muro poi è un po' triste, perché certo non è il massimo dell'allegria, però lei ha letto quello che ha scritto Don Piero, cioè quando dice se poi si arriva al delitto vuol dire che le responsabilità sono condivise. Lui ha scritto questo. È fuori luogo questa cosa qua. Ma lui, io penso, voleva far scattare una provocazione, capito? Un po' una sorta di tirar fuori il problema, certo esagerando, un po' come ha risposto alla giornalista proprio oggi, un po' esagerando, però poi esageratino, un po'. Dico che per qualsiasi cosa basta tirar fuori il problema, così se ne parli, capito? Ti voglio dire, perché poi dopo, ecco, di padri separati che vanno alla rovina, perché magari hanno diritto a tutto le donne oggi. Oggi se tu ti separi, vai fuori di casa. Capito? Sì. Cioè, vai in mezzo a una strada, se guadagni 1200 euro, ne dita 800 a loro, capito? Cioè, non c'è sta proprio il senso della misura. Allora io penso che il parroco abbia tirato fuori una cosa un po', diciamo, tra virgolette, eclatante per parlare del problema. Guarda che adesso se tu oggi vai alla Caritas ci trovi tutti i padri separati, capito? Che col diritto che hanno le donne non ti fanno vedere i bambini, mille sono le cose. Mo io non parlo, parlo in genere anche da quello che vedo io e sento con le mie orecchie, insomma, no? Vedo proprio persone che quando si separano vanno a finire proprio per stracci. Allora voi dici, deve stare una botta a cerchio e una a botte, capito? Cioè, parliamone, uno si separa, casa magari anche la mia, perché devo andare fuori io? Perché, cioè, voglio dire, allora io penso che il parroco, conoscendo tante donne, conoscendo tante situazioni, abbia potuto fare questa affermazione così forte per poter tirare fuori il problema. Insomma, un parroco, io penso che conosce più donne un parroco che poi conosce donne di chiesa. Immaginiamo quelle che non vanno in chiesa, te puoi immaginare, insomma, no? Io dico questo, poi, per carità, ha sbagliato il modo, ma secondo me è stata una provocazione. Non penso che un parroco, io non ho conosciuto tanti dei parroci, voglio dire, è stata una provocazione forte per poter affrontare il problema che è devastante. No, io credo invece, non sono d'accordo con lei, non credo che sia una provocazione, credo che Don Piero sia proprio fuori di testa, perché la provocazione, io, questo è quello che penso io personalmente, poi l'idea che mi sono fatto, perché ci sono dei precedenti, è uno fuori di testa, e quantomeno è uno che ragiona un po' a senso unico, perché le vignette anti-islam, una volta preso a calci un clochard che chiedeva l'elemosina davanti alla chiesa, adesso questo volantino, queste reazioni di fronte ai giornalisti sono ampiamente spropositate, insomma, ampiamente spropositate, perché anche qui potremmo avere tutte le colpe del mondo, però dire le auguro che cos'è che dice che le venga un colpo, delle robe agghiaccianti, insomma, ma che provocazione, Davide, dai, questo è fuori di testa. Alberto da Monza, buonasera. Buonasera, dottore. Ecco. Allora, prima di tutto, marito e papà di due figlie femmine grandi, sposo abbondantemente pur essendo un uomo di grande fede, il fatto che povero Don è andato via completamente. temo sì. Che abbia, da buon chirichetto facevamo scherzi mettendo grappe ai preti tanti tanti anni fa, visto che ero 51, temo che qualcuno abbia esagerato. Ha ripreso a fare questi scherzi. vediamola così, sì. Allora, la mia perplessità invece rientra nel discorso politico. Sì. Allora, io a numeri ci capisco, un po' per il mio lavoro, un po' per la mia attività. Che lavoro fa? Ma ho un'azienda privata nel settore ambiente, trasporti, quelle cose. Okay. Che non mi tornano è, allora, il PD lo danno con una forbice tra 25 e 30, il PDL tra il 15 e il 20, il 5 Stelle tra il 10 e il 15, il centrodestra, il centro con Monti tra il 15 e il 20, i vari 5%, la Lega tra l'8 e il 10, le schede bianche un buon 5% e dicono non votanti 25%. Allora, nella peggiore delle ipotesi, mi sono già perso, però vada. Nella peggiore delle ipotesi siamo al 103%, nell'altra ipotesi siamo al 130%. Ah, cioè lei dice, facendo le somme, c'è qualcuno che sta barando. Ma sì, ma sono forbici, però per esempio quella sul centro 15-20% io non l'ho letta da nessuna parte, c'è un sondaggio che Montezemolo avrebbe fatto vedere a Monti, però per ora era un pochino più bassa la quotazione, potenzialmente il centro vale fino al 20, ma è tutto da dimostrare, che non sia invece come dice Berlusconi intorno al 10%. Certo, quella forbice delle... Vabbè, ma comunque non avrà chiamato per fare i conti dei sondaggi elettorali. No. Sono veramente in grave difficoltà per chi votare, sono proprio onesto. Io ho votato una sola tornata la prima volta per Prodi, quando mi era piaciuto il discorso, mi era piaciuto tutto, poi dopo è andato tutto scattafascio, cambiando poi tutti i primi ministri che ha cambiato nel suo primo governo, poi ho sempre votato il centrodestra. Adesso mi trovo veramente in grossissime difficoltà, perché questo governo, siamo onesti, il governo Berlusconi ne ha fatte una peggio di Bertoldo, siamo onesti, come imprenditore lo posso dire e come Brianzolo, quindi di terra berlusconiana. Monti però non ha aiutato le imprese, niente, io vedo aziende chiudere tutti i giorni, io trattando ecologia e ambiente vedo aziende che stanno facendo pulizie a zero negli stabilimenti, di quelle che non riaprono più con l'inizio dell'anno, è veramente molto molto molto triste. Cioè, ma in tutta Italia. Vabbè, che dobbiamo fare, Alberto? Facciamo un appello, qualcuno trovi una soluzione elettorale per Alberto da Monza. No, la soluzione elettorale potrebbe essere quella veramente di sganciarsi da quello che sono le banche. Ha detto bene qualcheduno prima, non mi ricordo se Santalchè o meno, che si è presentato con l'agenda di fine anno Monti, che diano sti benedetti soldi alle imprese. Non sto dicendo di darle a me, io posso dire tranquillamente di essere uno tra i fortunati. Tra i fortunati, perché un po' di lavoro ce l'ho avuto quest'anno, un bel calo, ma il lavoro ce l'ho avuto. Però mi dispiace vedere chiudere aziende sanissime, buone, lasciare a casa persone perché proprio non hanno i soldi. Insomma, lei però mi spiazza, perché non mi conferma lo stereotipo dell'elettore indeciso, dell'elettore di centro, quale lei mi sembra di capire sia, perché ha votato per Prodi una volta, per il centrodestra un'altra volta, quindi che si butta addosso a Monti. Invece questo lei ci toglie anche questa certezza. Sentiamo però l'agenda e la Santanchè che lei citava. Signor giudice, signori della corte, io avevo smesso di rubare, ma poi quando l'ho vista dentro a quella cartoleria, così bella, unica, irresistibile, me l'ha già fottuta, a smemoranda. Smemoranda, smemoranda, è l'agenda più bella che c'è. Proprio vero che Monti è come le banche, ci tartassano tutto l'anno e poi a Natale ci regalano un'inutile agenda. L'agenda, l'agenda di Monti, insomma, questa è la dedicata ad Alberto da Monza con la battuta della Sant'Anchè. Monti è come le banche che prima ti fanno pagare tutto l'anno e poi a Natale ti regalano l'agenda. Questa è venuta bene. Allora sentiamo con qualche minuto di ritardo i titoli della 7. Mario Monti, fine della pausa di Natale, rientro a Roma per organizzare la lista unica, forse anche alla Camera, ma non a qualsiasi costo, precisa il ministro Riccardi. Il Vaticano apertamente a fianco del premier dimissionario, pensa al bene comune. Pietro Grasso si candida con il Partito Democratico e subito scatena una nuova polemica sulle toghe in politica per il procuratore nazionale antimafia, dimissioni anticipate e discesa in campo. La scelta sarà formalizzata domani in una conferenza stampa con Bersani. Riprende l'offensiva mediatica di Berlusconi nel tentativo di recuperare consensi. Stamattina nuovo attacco a Monti. Fa bene a dire che sale in politica perché aveva un rango inferiore, afferma. Intanto è polemica sulle apparizioni televisive del leader del PDL. Bene l'asta dei bot, piazzati titoli per 8 miliardi e mezzo di euro, ma l'anno si chiude con una raffica di rincari annunciati che portano a 1.490 euro la spesa prevista nel nuovo anno per ogni famiglia, dalla nuova tassa sui rifiuti ai rincari di luce e gas fino ai pedaggi autostradali. Era il sud, Cenerentola d'Italia, in 4 anni, dice uno studio di Confindustria, ha persi 330.000 posti di lavoro e prodotto interno lordo giù del 6,8%. Dall'Ilva all'Airbus fino all'Alcoa di Portovesme, 300 le vertenze aperte con altrettante aziende in crisi. Barack Obama è rientrato alla Casa Bianca nella speranza di trovare un accordo per evitare il fiscal cliff. Se entro la fine dell'anno non ci sarà un'intesa che blocchi il tracollo fiscale, gli Stati Uniti d'America cadrebbero in recessione con la disoccupazione sopra il 9%. Eccoci qua di nuovo in diretta alle 20:17, riprendiamo a sentire i vostri interventi all'824-0024. Chi sentiamo? Don Severino da Potenza. Don. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono io Don Severino. Allora, io ho chiamato proprio per il problema di questo Don Piero, credo che sia, sì, diciamo, mio collega parente. Allora, vorrei dire qualcosa che forse gli ascoltatori non sanno. Non è molto originale Don Piero, perché lui ha copiato quella, sì, frase, quel documento dal sito pontifex.com, che è un sito fondamentalista, veramente razzista, tremendo, insomma. Ecco, e quindi io invito i lettori ad andare a consultare e di denunciare, diciamo, quel sito che ha iniziato questa campagna. Poi l'altra cosa, un ascoltatore ha detto che Don Piero è un esorcista. Errore, perché per essere esorcisti bisogna, sì, essere in grazia di Dio, e nessun esorcista pronuncerebbe mai quelle parole o quei giudizi che lui ha pronunciato. L'unico problema di questo Don Piero è un unico problema, sì, che ha attaccato un altro giornalista a un certo punto e gli ha detto: ma lei è proscio. Ecco, allora, mi perdoni, ma normalmente chi ha questo tipo di problema e lo denunci deve guardare dentro se stesso quale rapporto può avere, diciamo, con le donne. Ecco, io Don Piero, con tutto il rispetto, lo metterei a livello dei preti pedofili, quindi deve andare via, deve essere buttato fuori. Quindi, insomma, ecco, fuori. Quindi qualcosa secondo lei si dovrebbe muovere, insomma, Don Severino? No, perché si deve muovere. Non si dovrebbe, si deve, perché giustamente lei ha rammentato altri due fatti: il fatto di prendere a calci, diciamo, un clochard che chiede l'elemosina. Sì. Ma il Vangelo dov'è? È un'invenzione? Oppure il fatto, cioè, questo sacerdote ha dei gravi, gravissimi problemi patologici, E allora, ecco, il vescovo della... Ma lei lo conosceva già, Don Piero da San Terenzo? Io lo conoscevo perché ho vissuto per 40 anni a Firenze, insomma, conosco, diciamo, non personalmente, ma tutte queste sue posizioni, ma non voglio dire, diciamo, altro. Io dico semplicemente a Don Piero, non si limita a chiedere scusa. Lei, Don Severino, quando poi la faccio finire, mi scusi, perché adesso mi è venuto in mente di chiederle questa cosa qua. Lei quando fa, non so, per esempio, i corsi matrimoniali, queste cose qua, quando parla con i giovani della sua parrocchia o meno giovani, vuole affrontare il tema della coppia e dei carichi di lavoro, qualcuno dice è stata una provocazione per parlare del ruolo della donna, eccetera. Lei non si è mai sognato, penso, di tirar fuori il femminicidio. Ma voi potete indagare e potete domandare. Io posso dire semplicemente una cosa, a differenza di Don Piero o quell'altro giovane che ha detto che con l'esperienza che ha, io posso dire, e possono rimanere male, diciamo, gli uomini, che per l'esperienza che ho io, purtroppo, tanti uomini si comportano così perché fanno un'altra vita di nascosto e non sono realmente uomini. E cioè, scusi, cioè, tantissimi purtroppo con l'obbligo oggi che c'è di sposarsi, di non dire la propria identità, tantissimi si trovano a dover affrontare, diciamo, un matrimonio per nascondere, diciamo, una vita che conducono, e quindi quando uno, diciamo, ha un'identità diversa da quella che professa, tira avanti e vengono fuori problematiche di questo tipo, cioè, è molto profonda la cosa, capito? Vabbè, comunque, insomma, lei adesso sta tirando in ballo un altro argomento, però la sostanza è che Don Piero, ecco, lei diceva, oltre a chiedere scusa, Don Piero... No, dovrebbe andare via, non dovrebbe chiedere scusa. Dovrebbe andare via perché è da manicomio. E poi, ecco, ripeto, invito i lettori ad andare a vedere questo sito, e parte tutto da quel sito lì. Se voi andate a consultare questo sito, e vi rendete conto dell'odio, della rabbia che questo sito mette contro le donne, contro i gay, contro quello, contro tutto e tutti. È una cosa allucinante. Ma secondo lei Don Piero è consapevole oppure è strumento di questo tipo di... No, per me è consapevolissimo. No, no, non facciamo chiacchiere, dai, su. Voglio dire, se uno si espone, si espone, e se non fosse consapevole non rispondeva come ha risposto ai due giornalisti, dai, su. Io la penso. Vabbè, insomma, Don Severino, dall'interno della Chiesa lei invita, per esempio, la curia di La Spezia, lei non so esattamente chi, il vescovo, chi per lui, a fare un passo. Ma come funziona in termini di diritto canonico? Cioè, può essere invitato a sollevare, a levare le tende? No, come si dice? No, vabbè, no, ora questo... Cioè, è un richiamo, cioè, prima di tutto a togliere quel manifesto, in secondo luogo... Ma questo è stato già tolto, sì. Benissimo, questo è stato il vescovo sicuramente che lo ha chiesto. E poi, credo, il vescovo chiede di dire, guarda, stop, chiuso, smettila, al limite chiedi perdono, diciamo, alla comunità, questi sono i provvedimenti, insomma, capito? Per cui... Cioè, per arrivare a essere spretato dovrebbe farle ancora più grosse. Vorrei rispondere, ma non rispondo. No, no, ma perché non deve rispondere? Vorrei rispondere in questo caso, cioè, se Don Piero, anziché mettere un manifesto del genere, va bene, avesse messo un manifesto per dire, dice, siamo a Natale, cerchiamo di voler bene tutti quanti e soprattutto, diciamo, le persone omosessuali diverse, non perché condivido, ma perché sono figli di Dio, probabilmente era già fuori. Non so se mi ha capito. Ah, cioè lei dice che fare una presa di posizione fuori gli omosessuali dentro la chiesa, certo, è più probabile, certo, che ti buttino fuori che invitare in qualche modo a ammazzare le donne. E non è il primo caso. Brutalizzo, ma è un po' questo quello che è successo. Beh, però, insomma. Okay. Grazie. Grazie a lei, Don Severino, da Potenza. Grazie. Ma lei è don veramente, sì? Adesso qualcuno... Se lei vuole sapere, domande a Roberta Giordano. Io ogni sabato ho un minuto nella sua trasmissione. Ah, ho capito allora, chi è. Certo, com'è? Sì. Vabbè, allora è veramente Don Severino. Grazie, buona serata. E poi chiedo scusa a nome della mia categoria a tutte le donne presenti. Se bravo, le accettano, ok? Sentiamo un po' se Don Severino ha sollevato qualcosa. 800 24 0024, Livia da Torino, buonasera. Buonasera a lei. Io prima di tutto vorrei rallegrarmi per il fatto che conduce la trasmissione e non Cruciani e non Parenzo, di cui sinceramente non capisco la presenza in trasmissione. Non è che c'è molto da capire, cioè sono quelli che la fanno normalmente. Sì, purtroppo. E questa è la zanzara delle feste, così Sì. Io spero che lei ci sia altre volte e più spesso. Comunque, a parte ci questo... Ci sarò. Prego. Ecco, la ringrazio, mi rassicuri, mi rende felice. Volevo anche intervenire per ciò che riguarda questo povero Don Piero, che io, mi sembra Piero si chiami, credo che possa aver sbagliato, ma chi è senza peccato scagli la prima pietra, e credo che il fatto che lui non può avere la possibilità che hanno altre persone di esprimersi attraverso i mezzi di comunicazione sia una cosa un po' vile, cioè attaccarlo in questo modo, crocifiggerlo. Guardi Livia, però mi dispiace, ma lei così dice una cosa, come dire, che posso smentire, perché oggi è stato intervistato, tutti volevano sapere la sua opinione e lui quello che ha detto è speriamo che venga un colpo alla giornalista, quindi sì, ho capito, non ha colto l'occasione per dire il suo pensiero tranquillamente. Ma guardi, ecco, siccome quello che lei stava dicendo, sì, certo, siccome qui si parla tanto di bontà, cattiveria, ecco, io penso che il prete che ha parlato prima parlava del Vangelo, mi meraviglio molto, perché il perdono è ciò che contraddistingue la religione. Io sono cattolica cristiana assolutamente convintissima, per cui il perdono è ciò che contraddistingue la nostra religione e la fa essere la migliore di tutte quante, per cui mi meraviglio molto che un prete possa dire una cosa del genere. E dopo credo che sia appunto in errore e più crudele e feroce chi giudica di chi ha sbagliato. E, cioè bisognerebbe far finta di nulla, perché sennò diventiamo tutti crudeli. No, non far finta di nulla, ma insomma, voglio dire, avrà sbagliato, punto e basta. Ma capisco che... Ma lei magari dà ragione a Don Piero, è questo il punto, no? No, non è questo, cioè mi rifaccio al catechismo di Pio IX, Pio X, non mi ricordo, ma il catechismo... Io non ne so nulla, per cui ci dica in altri termini. Il catechismo l'avrà studiato come l'ho studiato io alle elementari, penso, presumo. No, io non l'ho studiato. Non l'ha studiato, mi dispiace. No. Comunque, vabbè, potrà sempre guardare un attimino. Sì, che però cosa ci dica dice. Cosa vuol dire. No, dico il perdono, prima di tutto. Dopo... capisco che i giornali, la televisione, la radio deva gonfiare notizie perché c'è magari un pochino di vuoto. L'ultimissima cosa, dopo non le rubo altro tempo prezioso, è che si parla tanto di libertà di opinione, la libertà, dopo quando uno esprime un'opinione forse anche sbagliata, ripeto, cioè viene massacrato in questo modo, lo ritengo veramente una cosa di pessimo gusto e ingiusta. Io con questo la ringrazio, spero che ci sia sempre lei e non gli altri due personaggi un po' oscuri e molto molto volgari. Volgarità senza limiti, perché credo che si possa far ridere, essere leggeri, anche se senza la volgarità. Grazie Livia. Diventano molto banali. Ecco. Grazie, buona serata. Io non so se abbiamo il tempo, credo di no, a questo punto, di sentire qualcun altro. No, perché siamo in chiusura. Che vogliamo fare? Luca da Roma, in due secondi, ci dica cosa voleva dire, lo risentiamo domani. Luca. Sì, salve, buonasera. Buonasera, salve. Io volevo fare una riflessione molto veloce sul governo Monti. Noi abbiamo eletto Monti un anno fa, sono state fatte alcune riforme, pensioni, lavoro, con esiti veramente disastrosi, come sotto gli occhi di tutti, le province non sono state ridotte, i parlamentari non sono stati ridotti, le liberalizzazioni non sono state fatte e così via, l'impresa non è stata alcun aiuto. Io il governo lo giudico sui risultati come giudicherei un consiglio di amministrazione. Okay. A questo punto le persone normali avrebbero un governo dimissionario. In realtà Monti si ripresenta, si candida, non si candida, fa una lista, fa un'agenda, la lista è unica, non è unica, usa Twitter e lancia messaggi su Twitter. Secondo me siamo un po' al paradosso. Il dramma è che poi a sinistra c'è una sorta di disastro, un Bersani che si ripropone per la settima, ottava volta come... Va bene, fermiamoci qua Luca, perché non c'è tempo di andare oltre. Io la ringrazio tutti, l'appuntamento con la zanzara festiva, com'è che si chiama? Delle feste, è domani dopo il giro delle 18, buona serata a tutti. La zanzara.